Vai, per Gisli. Allora, eravamo sulla nave e praticamente ci hanno dato i compiti, cioè le nostre missioni. Allora, il corvo era di vedetta, insieme ad un... non mi ricordo se era un umano o un nano. Era un umano. Un umano. Quello un po' effeminato. Sì, quello scassacazzo. Sì, quello che... Ma veramente, non l'aveva finito. C'è un tizio che... Sì, era quello che tirava sempre le palle, che parlava un po'... Però ciccia. Esatto. Sì, allora sì. Si fregia di essere un occhio di lince, ma in realtà non riconosce la barca a 300 km. Lui doveva contare ciò che c'era nella stiva con l'aiuto del corvo. E tu dovevi... Non mi ricordo se tipo dovevi leggere... Macchinista, io sono... Perché era... E poi vabbè, anche se non ti ricordi quelli di MPC non fa niente. Io invece con un nano ero come... No, con un'umana ero come Mozza. E mi sono molto arrabbiata per Ah, Mozza, tanto è vero. Di averti... Cioè, tanto ti ho chiesto se potevo essere una... La timoniera, si dice? Ah, sì, però... Il ok, però tu hai detto... No, no, già... Era già l'altro. Quello che stava Dopo, niente, svolgiamo le nostre mansioni e c'è sempre, diciamo, il nostro capo rimane più che altro sempre... come si chiama? Quello che voleva prendere il potere. Jung Gaishe. L'altra volta hai scritto in un... Il monaco potentissimo. Il monaco potentissimo, esatto. Monaco con katana. Insomma, andiamo a letto, andiamo a dormire. E che figo! L'Halfing, che era di vedetta, praticamente corre a svegliarci e corre a svegliare anche lui perché accade una cosa strana. Non mi ricordo esattamente che cosa stia. C'è un disegno sul. Ah, sì, col sangue. Vernice rossa. Che tu hai notato non esserci nella stiva. Esatto, tu hai notato non esserci. Faccio l'intervento più intelligente di tutta la tua vita. No, è vero, ha chiesto. L'Alfin ti ha chiesto. Ma abbiamo della vernice rossa a bordo. E tu sei stato zitto ed è arrivato il fantasma. Sembrava strano. Ok. E praticamente è arrivato il pirata. Che quindi no, insomma, avevamo già quello che era morto, cioè. Quello che era morto, che avevamo incontrato. Ricordi nelle... Simone, quello che sì, era. Sì, sì, il pirata. Subito. Solo che non era solo. Aveva tanti piccoli amici che ci hanno praticamente. No. No. Però erano parecchi. Controllava erano, dei bright. Potevano essere tipo 8. Erano 8. E praticamente abbiamo dovuto tirare l'iniziativa perché ci siamo messi a combattere. Esatto. La battaglia è stata parecchio pesante. Tanto 4 che lunghe ore. Il problema era. Il problema era entrare nel loro perimetro perché venivi paralizzato. Comunque subivi. Rischiavi di morire. Esatto. Danni. C'era questa debole abilità che era palesemente di terze parti dell'amico di Danilo. Praticamente quando entravi entro il suo piccolo raggio di feet, che io ho ridotto a 30. Esatto, il 30 feet, ma che in realtà erano 60 per questi po' pazzi psicotici. Se fallivi un tiro salvezza che inizialmente era di 27, poi da Danilo stava abbassato a 20, no, forse sì, a 20, 19. Praticamente eri paralizzato. Diciamo che l'avevo già abbassato prima della sessione, ma poi ho visto come era. L'avevi ancora più abbassato. Eri paralizzato, il che voleva dire che lui era lì a portata e ti sgozzava semplicemente. 27 a corsa. Lui stavamo per morire e lui è riuscito a invocare... Però comunque era tantissimo. Esatto, cioè. Praticamente io e lei siamo rimasti davanti a lui completamente helpless. Però per fortuna io avevo prima evocato degli angeli che sono venuti e ci hanno portati come dei in alto. Domanda, io per terra prendere le botte? Cioè... No, tu eri per terra a prendere le botte. Però le davi parecchio. Questo no, dire... esatto, diciamo che hai fatto grosso del lavoro. Esatto. Perché col fatto che erano incorporei... lui aveva soprattutto un'altra c'è touch e quindi lei aveva parecchie difficoltà a colpirlo perché lei è buona, ma se trova uno con l'altra c'è touch, diciamo che si sente il fatto che deve sottrarre un sacco di cose. Certo. Mentre normalmente no. Poi il problema è che non potevamo usare. Lui ha fatto un bel po' del lavoro comunque. Giorgio fa un ranger? No, è un monaco zen nano. Il problema è che non potevamo usare gli incantesimi. Esatto, poi era svantaggiata perché. Prego. Io di appunto, cioè gli incantesimi erano efficaci. Comunque i danni tutti erano dimezzati anche, tra l'altro. Quindi, per quello. Cioè, il fatto che durata tanto perché cioè, i PF erano raddoppiati, i danni erano dimezzati, quindi cioè, vale. Poi c'è cioè, combatte 2 contro 12 perché gli altri non si paralizzano. Esatto. Hai evocato qualcosa? Non so sì, certo, dei bralani che ci hanno salvato la vita. Sì, vero, c'erano i bralani erano morti. No. Sì, tanto che a un certo punto no, perché T-Rex non usano gli attacchi magici, quindi non avrebbero avuto effetto perché quelli incorporei Non so, la battaglia comunque è durata tipo un minuto circa, anche se nel mondo reale, anche se per noi è durata 4 ore, in realtà è durata non più di 10 round. Sì, avevo calcolato che era durata tipo 9-10 round. Anch'io. E poi Danilo ha dovuto scegliere se uccidermi o no, e ha deciso di massacrarti di botte. Giusto, che scelta difficile, immagino. Immagino sia stata una scelta semplice. No, vabbè, ma gli avevi fatto più danni di me. Quindi... Ok, picchiamo PG di Simone, fu e picchiamo un altro. No, picchiamo PG di Simone, molto meglio. Ma cosa vuoi che ho risparmiato? Scusa, mi sembrava veramente una carognata farti morire la seconda sessione quando non eri presente. Cioè, giustamente, avevi fatto PG un altro babbo uguale ad Ago. Però, no! Giustamente, quando l'avevi copiato, no. Ok, bene. Fatto bene. È andata bene. Bene, come termina, come il fantasma di Elaberton si sgretola, no? Cioè... scompare come io devo dire la parola prima che passi il round. Ok, cado per terra distrutto e dico curateci ai Bralani e cominciano a spammare cura ferite se non, sono tipo 500 danni, cioè direi che ci fulliamo con 500 danni. Sì, beh, con la non sono più raddoppiati. Sì. Mm. Io avevo tipo 24 PF, io non so quanti PF avessi. Sì, io avevo 2 danni alla costituzione. Va bene, siete full qui. Ah, però tu i danni alla costituzione ne avevo 2. Io ne ho? No, tu non mi pare. Mi pare che apri solo lei perché hanno sempre fallito, però. Cadici, quel del loro TS era abbastanza basso. Calcolato che avevamo ancora una decina di round per curarci, per quello ci siamo curati così tanto, ok? Però ce la siamo vista brutta, dice. Lo vuoi dire forte? Grazie, Bralani. Maledetto hai Laberto, non rompi coglioni anche da morto. No. È molto strano il trambusto della battaglia. Ha svegliato comunque anche i vostri compagni. Alcuni di loro, ma non tutti, si sono presentati sul ponte di comando. Tra cui, ovviamente, anche Junker e Shek, perché voleva sapere a cos'era dovuto questo rumore. Come mai abbiamo si disturba? Cosa è successo? Aspetta, giusto. Cos'è stato questo rumore? Cos'è successo qui? Capitano, siamo stati attaccati da un'entità ultraterrena di, come si chiama? Elaberton. Di Elaberton, che è tornato per noi con nefasti avvisi, che ci ha detto praticamente che siamo destinati a morire. No, siete già morti. Ah, siamo già morti. Ha capito. E dobbiamo accettare il nostro destino. Ci ha detto che siamo già morti. Ho un po' di dubbi a riguardo. Beh, vedo che ve ne siete liberati abbastanza facilmente. La promozione? Ha detto che siamo in un sogno, l'unico modo per uscirne è... Ah, no, aspetta, quello in serio. No, vabbè, sì, in effetti, ma... Ha detto che siamo già morti e l'ha ripetuto più volte. Poi quando non abbiamo fatto per... Cioè, non gli abbiamo creduto, ci ha attaccati per ucciderci. Fa una prova di conoscenze e religioni. Ok, sai che... probabilmente questo... Sei tutta la storia di tutte le religioni, sì, esatto, di questo mondo. Sai che i fantasmi spesso magari tendono un po' a cioè, nel senso i Wright, questi Dread Wright tendono un po' a confondere la realtà con quello che sta succedendo a loro. Ah. E quindi magari lui, cioè, sapendo di essere morto, ha pensato che anche voi lo foste, quindi voleva che tornasse. Quindi, ho capito, allora lo spiego al capitano. Sì, esatto. Secondo me, bla bla bla. Molto, non molto. Anche la prova di conoscenze arcane. Anche voi potete farle. 24. Se li ricordo. Non c'è in tubo, 24 però. E provo anche io con... Io avevo 13. Arcane locali ce l'avevo io. Facevo anche col corvo. Ah, ok. Vabbè, sai comunque che... Cioè, in base al fatto che hai fatto prima, che questo potrebbe essere sempre un effetto dovuto all'alta presenza di Asratite, il fatto che sia arrivato il fantasma del vostro compagno che ha perseguitato proprio a voi. Ah. In che senso? Può essere dovuto alla sua... ricordo che voi quando lui è morto avete rivisto tutta la sua vita, no? Perché c'è questa... Quindi si è creata una connessione con noi. Esatto. Quindi potrebbe tornare. No, no, questo no, ma... Cioè, nel senso, è una cosa che potrebbe succedere anche se muoiono... Altri di voi, ecco. Allora ho un motivo in più per cercare di restare vivi. Penso, già, voi siamo fighissimi. Io mi metto verso di lui e lo ringrazio. Se non c'è altro, qualcuno dovrà pulire questo macello. Mozzi, noi abbiamo già fatto il nostro. Il povero Mozzo la lavatrice. Ovviamente ha fatto valere in battaglia. Eleni è esonerata visto che ha combattuto duramente. Corin, datti da fare, Zino. Uno apre tutta la nave, poverino. Beh, io torno ai miei. Se fare tanto, cioè, non è che deve fare lui, se torna un altro assassino, Corin, se torna un altro assassino non Corin morto che capeggia un esercito potentissimo, chiamaci. Poverina, cioè. Semplicemente muori. Dico, lo farò senza il sangue. Aspetta, Corinne cos'è che è una? Un'umana. È un'umana. Umana. Non è quella che mangia... È quella che dice di aver ucciso la sorella. Ah. Questa cosa non è colpa. Mi rivolto no, quella lì è una droga. Quella che è cannibale. Ti ringrazio. Cuoca. La cannibale tra i ruoli è stata messa a cuoca, questo non l'ha detto. Ah sì, scusa, mi sono indicato una parte importantissima. E lei si è molto lamentata perché chiedeva se i cibi fossero freschi. La giustificazione del capitano è stata fatta che normalmente non avrebbe fatto una scelta, non avrebbe fatto una scelta così macabra, ma che il master lo mostra in senso lungo. Esatto, il capitano ha detto proprio questo. Ha detto questo, Yunkashek. Concordo con Yunkashek. Torno a dormire, sono stato fin troppo tartassato per stasera. Ah, lo ringrazio anch'io, anche se io non mi fido degli estranei alla mia razza, di quelli non uguali a me, insomma, diciamolo così. Lo ringrazio anch'io. No, io sono già svegliato a dormire in mezzo al ponte. Ma vado a sodo, ma non c'è di che. Okay. Grazie anche a te. Non parlavo con te. Il giorno seguente, mentre se siete riposati, vi siete alzati, avete svolto le vostre mansioni. Abbiamo fatto dei sogni particolari, visto che c'è questa sratite? Per ora no. Non sono ancora fatale. Devo ancora fare la sua fase ancora. Ce l'ho un sogno in futuro. Bene. Dobbiamo fare pure le medium. No, no. Allora, dicevo. Il quarto giorno, cioè, dopo che avete svolto le vostre mansioni, mentre tu ti stai dando il cambio con Istral, no? Vai, adesso ci penso io. Dice, no, aspettando mentre cammina. A quanto mi fa schifo. Poi non è proprio solo, non è solo gay, cioè in realtà lui è appunto un omnisessuale, diciamo. Cioè? Nel senso che andrebbe con qualsiasi cosa. Allora, pansessuale. No, omnisessuale suona meglio. Non prendi di più l'idea. Okay. Ma non è tanto il fatto che sia... È un po' come Arkness, però senza stile. Arkness è figo. Ok. Chiaro? Ti si avvicina Corinne mentre sta svuotando dei secchi di sabbia. Corinne è umana. Sì. Ok, sì. Ascolta. Puoi darmi un attimo mano con questi secchi. Poi ti dice, con una voce più bassa, in modo che nessun altro possa sentire, ti devo dire una cosa. Ha ucciso la sorella, vero? No, questo me l'ha già detto. Ha ucciso la sorella, vero? Cioè, mia assoluta sorella. tipo. Allora, vediamo che non risponde. E mi metto lì vicino a lei, più o meno, e okay, parlami. Inizia a svuotare, perché in pratica, anziché togliere la nave, qua si deve togliere la sabbia dal ponte. Che figo. Lui c'è l'acqua. Il crimine, io ti devo dire una cosa, ma tu devi promettermi che non la direi mai a Yunkai Shek o a nessuno di cui tu possa fidarti. Ah, perché io? Perché ho visto che anche tu sei abbastanza restia nei confronti del nostro comandante. Chiamalo tuo comandante, perché mio... Appunto. Inoltre mi sei sembrata anche una persona abbastanza... Delle piume? No. Abbastanza, diciamo, onesta per il tuo passato. Tu hai detto a tutti quello che hai fatto o no? No. Beh, lei comunque dice così. Per cui sei stata condannata. E tu cosa ne sai? So più di quanto pensi e forse questo già rivela troppo. Allora, parli. Prometti o no? Parlami. Prima di promettere. Non ti conosco neanche, se vuoi dire. Se non prometti non posso dirti niente, ma sappi che avrai un vantaggio a sapere questa cosa se manterrai parte del patto. Sono curiosa. Ma... Ok, prometti quindi. Prometto. Lo prometto. Di non dirlo a nessuno? No, di non dirlo ai capisciani. In realtà può rivelarlo a persone di cui si fida. Certo, sì, sì. Non si vede nessuno. Il vero motivo per cui sono stata condannata, si guarda intorno prima che per vedere se c'è qualcun altro che ascolta, non ha niente a che vedere con una sorella o robe del genere. Sei la sorella di un cascè? No. Sei sua madre? Sconsolata. ti sembra forse con la pelle verde? Ah, la pelle verde? E un cascè di serpentone. È vero, un serpentone? Sì. Sei la sorella bastarda. Abbiamo finito? Alta l'intelligenza. Sei la sorella bastarda. Non abbastanza. Cosa? Io sono forse l'ultima cantrice rimasta. ti ricordi il tuo background? Oh mio Dio! E sono stata condannata a morte per questo motivo. Sei cretina? Non sei venuta a dirmelo subito? Quanto fai di intelligenza? Beh, ascolterei, sarà in pace quello che hai fatto. Cioè, e comunque ti ha detto appena avuto l'occasione, perché non si può, cioè, più andare sempre in gabbia con Junker Shea, come faceva a dirtelo. Vabbè, ti dice questo. Ok. E perché sei stata messa qui? Cioè, nel senso, appunto, okay, essere condannata a morte. Ok, ma sei con lui? Cioè, lui sa chi sei? No, non lo sa, per fortuna. Non lo sa. E come ancora fa a non saperlo? Beh, perché non lo sa. Lei ha tenuto nascosto questa cosa. Beh, ma lui vi ha perseguitati. Sì, ma non è che conosce tutte di faccia, c'erano tante. Ma le ha perseguitate per un sacco di tempo. Non è che te sapeva. Aveva nomi, aveva posti. Come hai fatto a sfuggirgli, nel senso? Vabbè, era una minore, nessun di poca importanza. Ma cazzo, me ne frega. No, scherzo. Ha importanza forse come sono riuscito a sfuggirgli? Il fatto sta che lui evidentemente non sa chi sono. E che questa cosa ovviamente non deve assolutamente essere scoperta. Te la dico appunto per chiedere il tuo aiuto nel caso lui dovesse scoprirla. Come fa? Come potrebbe fare? Non ne ho idea. Ma potrebbe succedere. Qualcun altro sa? Qualcun altro qua dentro sa? No, lo sai solo tu. Sei sicura? Sì. Non hai prove? Non posso esserne sicura al 100%, ma nessuno ha dato modo di vedere, di sapere questa cosa. Io di certo non l'ho rivelata. Cosa stai facendo? Ma filo la spada. Ma devi contare le cose. Vuol fare anche un... Lei è un'umana, non ha nessun segno particolare. Ma devi contare le cose. Giusto. Niente. Infatti per non l'ha riconosciuta, cioè non è che sono così riconoscibili ad occhio questi tizi, cioè. Non c'erano scritte in fronte. Sono, erano tanti. Magari avevano dei segni, avevano, non so, dei simboli, ok, va bene. No, no, niente. Ok. E se tu mi garantisci questa protezione, io ho un potere particolare che potrebbe tornarti utile. Beh, di sicuro non andrò a dirlo al mio acerrimo nemico, per lui sono qua. Qual è il tuo piano? Non è cos'è? Un piano, io chiedo solo protezione. Io ti proteggo come ho cercato di proteggere tutte le altre. Il problema è che tu non devi fare niente di avventato, non mi devi mettere in pericolo e non devi andare a parlare. Ti sembra con forse una stupida? Non si sa mai. Comunque, quello che... Come si chiama questa ragazza? Corinna. Ah, è la sguattera. Sì, la mia compagna. Senza offesa per le sguattere. Certo, esatto. Come sai, le cantrici hanno potenti doti curative. Esatto. Io posso metterle al tuo servizio, ovviamente di nascosto, nel caso dovessi rimanere ferita. Se hai qualcun altro di cui puoi fidarti, puoi rivelare anche a lui questa cosa in modo da poter far numero contro Kai Shek nel caso scopra questa cosa. E potrò offrire il mio servizio anche a loro. Okay. No, è un bardo, ho trovato un modo bravissimo per far recuperare un sacco di piedi. Ah, che figo, che figo. Va bene, Corinne. Forte. Allora, profilo basso. Ci siamo capiti. Non venire a cercarmi in modo strano. Abbi sempre un'idea per avvicinarmi in qualche modo, visto che non siamo tutti molto amici qua dentro. Certo, ti ho chiesto solo di darmi una mano con i secchi, ricordi? Mm-hmm. Tu prendi un secchio. Ho finito il mio turno. Lei dov'è che dorme? Stai filando lei in cammina con me. Lei no, dorme con me e... Ah sì? Sto aggiustando degli ingranaggi. Giorgio, mi sembra. No, guarda che voi dormite tutti da soli, cioè non dormite con te e mia PC. Voi dormite... No, io dormo con Giorgio. Io dormo con loro due e basta. Esatto, tu dormi... No, fermo! Ti do una mano, mi sembra un po' di... Fermo. Apparecchi delicati questi. Eravamo in tre. E poi quello non è un martello ma un falchion. No, loro sono. Vabbè, ma se ho picchiato la parte dell'estero qua. Lei dorme insieme ai nani, che culo. Chi? Corinne. Quello con terzo braccio. Bianca sotto i nani. Eh beh. Ah. Che vuoi? La curatrice. Allora, cosa succede? Io esatto, mi noi lontano. Gli altri siamo, diciamo, io lingui delle menzioni. Sto lavorando al motore. Tu hai intenzione di parlarne con qualcuno? Dimmelo e fallo, se no. Per adesso no. Ok. Sono tutto pieno di grasso di motore, cose così, no? Tipo, come si dice, meccanico della Firefly. Potevi tipo evocare un angelo e mettere l'avvocato al posto tuo e te ne andare. No, perché c'ho io le conoscenze. Però posso evocare qualche tipo, esatto, qualche angelo con mille conoscenze. Il giorno seguente, mentre state, cioè, quando ormai sei anche sempre in ora di smontare robe del genere, cioè ci sono i vari cambi, i turni, proprio così. Istral si avvicina a te, perché per quello ho chiesto il carisma prima, per sapere chi era un po' più magnetico, e lei quella col carisma più alto, no? Fa ehi, io sono la spettacchiera. No, capelli di che colore hai? I capelli rossi, okay. Perché c'era di fuoco in realtà, hai i capelli di fuoco. Ah, ma Istral è il tipo l'omnibus. Grazie. Un po' noiosa la vita qua, non trovi? Un po' scorre come le mie penne la sabbia in questo spietato deserto. The poet. Vero, vero. Fortuna. Trasporto. Fortuna c'è un'abile bella e nobile come la tua qua a bordo. Ti ringrazio. Ma lo sto attaccando. Sì, cioè, non so più cosa dire. Se lo facesse a me lo conterei come minaccia d'attacco e fai come... No, ma poverino, cioè. Lui che cos'è che è? Un umano. C'ho anche la foto. Che è un guerriero, è un... Non è un ranger, esperto del deserto. Cioè, per me se ti incula con la sabbia. Potremmo trovare un modo per far trascorrere il tempo più piacevolmente, non trovi? Noi, visto che c'è questa così forte affinità tra di noi, entrambi troviamo che il deserto sia appunto spietato. Appena detto. Ma è la prima volta che ci parliamo? No, beh, in realtà. Ah, ok, ok. Ah, ok. Tu non sei di vedetta con. Ho appena smontato, sì, dal caso. Cazzo, accidenti! Mi spiace. Hai visto sopra? Sì. Quindi lei vede tutta la scena? Mi vedo? Allora io sollevo le braccia, sollevo gli occhi quando vedo che lei si. Posso. C'è Sodoma lì che sente tutto, no? E mi invia, tipo, io sono il che lavora al motore, mi invia messaggi empatici di divertimento dal tuo. E che può fare, cioè, abbiamo questo legame empatico, sì, sì. No? Io mi metto a ridere mentre, a sorridere mentre... Aspetta che cerco l'immagine un attimo. Vabbè, intanto cosa rispondi? Guardo lei che si sta abbracciando e dico, magari un'altra volta perché adesso devo iniziare il mio turno. Ah, capisco. Bene, ho capito perfettamente il messaggio. Quanto hai di carisma tu? Fatto sta che la notte quando è ora di andare a letto lui si fa trovare nudo sul tuo letto. L'uomo nudo! Cioè, è andato! Prova l'uomo nudo, funziona molto bene. Grida che faccia buona di perception. Ma c'è Giorgio, non c'è l'altra, cioè, non gli importa. Se vuole punirsi anche il nano. Funziona una volta su tre. Togliti dal mio letto e slegati i posti. Pure legato, non l'ho capito, bellissimo. Si è legato da solo, magico. Esatto. Ti possiamo dare azzurro. Ma è un bel uomo. Cioè, è bello. Come... Adesso ti faccio vedere com'è. Ok. Allora, aspetta. Ma è viscido comunque. Poi non ha le piume. E non fa le uova. Ma tu sei un uomo? Cioè, sei un maschio o una femmina? Femmina. Peccato, mi dispiace. Erano le piume, guarda. Erano le piume che erano affascinate. No. E mi spiace, non sono più lesbica come... Purtroppo, tipo, è successo un casino che, tipo, l'ho slungato per sbaglio, perché prima l'ho fatto più corto, ma c'avevo lo schermo che si era tutto appiattito perché c'era un formato sbagliato, e quindi ho detto, ah, cavolo, si è appiattito, e quindi l'ho allungato, poi ho visto lo schermo giusto e quindi l'ho allungato. Ah, quindi, capito. Così. No. Possiamo vederlo? Anche chiedo a Giorgio di uscire. Chiedo a Giorgio se per favore può uscire dalla stanza. Ah. Cioè... Madonna, ma chi è sto gay? Appunto, sto gay. Infatti cercavo l'immagine di un ranger tipo... Omosessuale. No, no, ranger omosessuale. No, cercavo l'immagine di un ranger tipo nel deserto, così, no? Cerco, quindi trovo questo qua, dico, minchia che gay. Detto, però potrebbe... Perché non fai un ranger? Un ranger omosessuale. Esatto. Niente, quindi di così ci allora? Sì, non ho capito. Che fai? Che fai? Che fai? E siamo tutti alla porta origliare così. No, io me la dormo. Ragazzi, poteva venire da uno di voi due, sarate il carisma più alto. Cazzo. Cioè, magari se devo respingere, ripiega su qualcuno più. Guarda che sono quel che rispiega. Quello che secondo me più alto sono io. No, io ho 9. Ma lui ha 9. Io ho 9 di carisma. Vieni, che ti insegno io. Ma potrebbe venire, mi piacciono gli uomini muscolosi. Madonna. Non si può. Però... Ma lui ha tipo tanto carisma. No, non mi pare. Adesso guardo. 7. Infatti si vede perché è parecchio odioso. Mi avvicino, gli slego i polsi e gli dico: senti, sei un bellissimo ragazzo. Bluff. Esatto. No, però ce l'avevo bluff, avevo tipo più 2. Ecco, dai. Ne ho fatto 4. Guarda, sei proprio... No, vabbè, basta, no, ho io... capito, no, cioè, non ci diciamo che gatti, sì, niente, vabbè. Resta pure a divertirti col nano Monaco, va? Dai. E se ne va. Siccome mi ha anche insultato, gli do un calcio nel culo mentre se ne va. Carino. Ti ringrazio comunque per le tue avance. Eh sì. Ma? Cosa? No? Oh, mi guarda tanto. Penso che ti abbia svegliato Sosa, ma è un po' pettegolo. No, ma non l'ha sentito. Così mi sono svegliato con le vostre schiamazze. Sì, ecco, noi ce la stiamo dormendo, la grande. Sì, esatto. Beh, meglio così vi sorprenderà anche a voi. Esatto. Io lo conto come un attacco, mai, eh. Non già beh, se non ti rimato, potrei venire anche da un corvo in ricerca di esperienze nuove, e certo, esotiche. Ma non ce l'ho e quindi... Ma magari proprio come ultima risorsa. Esatto. Grazie! Decisamente grazie. Se sei un corvo non è colpa mia. E poi le mie piume sono bellissime. Cioè, ho un beccuccio fantastico. Ok, vi svegliate e durante la navigazione del giorno dopo sentite un tremito che scuote la sabbia. Il deserto... poco lontano vedete una montagna di sabbia sollevarsi e sotto di essa apparire un enorme scorpione nero che sembra avere adocchiato la nave. La cena è servita! Posso fare una prova di conoscenze? Io di che urlo, tipo? Mostra a babordo! A babordo! Di che tipo? No, scusa, vabbè, comunque 28. Meno male che abbiamo una vedetta che ci distra. Madonna, prendo 28. La prima cosa che mi viene in mano e io ti addosso. Sto guardando, ti guardo e ti dico, colpa mia. Ho fatto 28 di conoscenze, poi dimmi cosa so. Giusto, che qua è bella l'immagine. Ma è un certo, c'è uno scorpione grosso contro una nave? Sì. Ah no, cazzo, era su un altro bestiale. Bestiale sono questo. Boh, 2. No, perché li tutti lì? Sì. Sarà 3. No, secondo me è 2. Ecco. Cioè, è più grande di un cammello, come potete vedere, molto più grande di un cammello. Vediamo. Quindi è grande quanto la nave. Ah, non è proprio super mega gigante. Beh, è colossale. Sì, è colossale, ok. Quindi qua è bello grosso. È grande quanto la nave, diciamo, no? Più o meno. Sì. Pratico. Come si chiama la cuoca? Non c'è la dieta. No, no, sto facendo le patatine. Azalea prepara il fuoco, anche oggi mangiamo. Azalea, chi è? Ma no, ma non ho ancora ucciso. Ah, in quel senso. Ecco, Azalea, per favore, eh. Ah, era una battuta. Dai, ragazzi. Così. Oddio, che tristezza. Da quando concerne Azalea, sto mettendo su un sacco di massa, ma fa un sacco di proteine. Non capisco come faccia a fare i piatti così buoni. In un'altra vita mi sembra di aver mangiato già prima. Carne umana. Madonna. Mi ricorda qualcosa. Non parlarmi di altre vite. È vero, perché tu sei un Samsaran. Sono un Samsaran e poi... È un Samsaro lui. Insieme a lui dalla sabbia compaiono altri piccoli... Cioè, scorpioni comunque grandi quanto un cavallo, ma più piccoli di lui. Che il suo confronto sembrano comunque molto piccoli. Quanti sono? Scorpioni a babbo! Una decina. Chiamo il capitano. Non possiamo scendere tutti dalla nave per affrontarlo. Non possiamo... Perché non possiamo lasciarla sbarnita. Mi sembra giusto. Voi avete già dato prova della vostra abilità, a quanto pare, contro quel fantasma. Ah, siamo noi gli strumenti. Sono curioso nel caso di vedervi all'opera. Capitano. Prendetelo. Fate in modo che non nuociano la nave. Che problemi avete voi? Si può andare al macello voi se... Io sono uscito dalla nave, non c'è niente di male nel macello. Vai a dire allo Zalea. Non c'è niente di male nel macello. Sono sicuro che concorda con me. Bello. Le scottine sono buonissime, però mi distraggono molto il gioco. Sì, infatti adesso spostiamo tutto che... Devo eliminare le grosse mani. Aspetta, andiamo a parlamentare, non è detto che dobbiamo usare la griglia, no? Ma loro parlano... Diplomacy. Loro che lingua parlano? Nessuna, intelligenza 2. È più intelligente il mio squirrel. Il tuo squirrel? Che si chiama Rain, ho deciso. Si chiama Pioggia. Certo. Un'intelligenza trattino. Uno scatto al deserto e si chiama pioggia. Cosa c'è di più bello? Allora. Comunque, dalla prossima volta, facciamo che mi casto di default Overland Flight quando mi sveglio. Quando mi sveglio. Okay. Se non ti dico il contrario. Colossal alle 6 quadretti, no? Non dormo. Colossal? Sì, direi di sì. Sì, a 6. No, ti rimetto qua così se vuoi trovare. È meglio di, è più di Gargantuan. Qualcuno ha l'acqua? Io. Ce l'avevo qua. È sparita. A te. A tua. Ci vuoi che spasso delle cose? Vi faccio grandi un quadretto, mi sa. Se no non ci stiamo. Eh beh sì, sì. È dei 12 lui. Ma come facciamo noi a combatterlo? Volando? No, scendete dalla nave. Ma sulla sabbia? Sì, camminiamo. Quindi la sabbia non è fluida. Ok. Vabbè, si può tranquillamente come nel deserto, capito? Sì. È terreno accidentato qualcosa del genere? Ci avevo pensato se lo era, ma senti, anche ma... se lo è, chi se ne frega. Abbiamo qualche round? Prima di avvicinare, che lui si avvicini. Mm-hmm. Direi non più di un round, comunque. Okay. Meglio agire prima possibile. East. Ma no, East no, perché ce l'ho familiar, quindi meglio fare una roba che... Ci penso un secondo. Guardo la mia tavola dei buff. Perché oltre a fare quello, ho fatto anche la mia tavola di buff e debuff organizzate per durata. No, figata. E sei, si è messa a lavorare? Sì, stamattina. Ma in realtà questo l'avevo già fatto. Lo sono stampato. Posso vedere? Sì. Aspetta, però te lo faccio vedere dopo. Sì, vabbè, così guardo cosa fare. Quante sono una decina, hai detto? Sì. Direi che posso fare. Sì, direi che. Punto la mia tutela, magari. Ma no, se no mi lancio fly e via. Mi lancio fly, proteggo me stesso. Ditemi quando, come vi avvicinate a lui. Io sto correndo come un pazzo felicissimo. Ah, così proprio, eh. Certo, questo qua non ha tempo di terze parti, non l'ho buildato io, ci credo che sei felicissimo. Non l'hai buildato tu, sì, l'hai buildato io. No, non l'ho buildato io, È del bestiario. Magari... Le CL, un counter level è più alto, dovrebbe essere tipo di due più alti di quello rispetto a quell'altro. Vedremo. Vediamo. Ma posso sapere curioso. Se tipo sono, beh, però sono tanti, sono, eh. Tipo immuni alla, sì, infatti, da, prova. Posso sapere. Buttiamo giù prima quello grosso. Ma quello grosso ci penso. Nel round d'oro devi fare la prova di conoscenze. Ok. Conoscenze di natura. Quanto è conoscenza? Ma tu già hai dei gradi. Poi io l'ho fatta. Sì, a tutte. Io ho fatto 28. Parte ingegneria. Quanto sono? Ho fatto 7. Io ho fatto 28 di conoscenza natura, prima te l'ho detto. Quanto 28? Lo so. Comunque dopo mi sa che uso questo. Sì, uso questo. Comunque, allora, sul ciccione non sai niente. Ah. Mi pare che serve... Aspetta, devo vedere un attimo. È 20. Esatto. CR più un bel po'. Infatti. K di... Non legge. Cavolo è? Perché non siamo nei 15, perché non siamo nei 15, perché non siamo nei 15. Non dovrei. No, in realtà quando hai fatto 28? 28. Allora sai un po' di cosa. È 10 più... Sentiamo. No. Mi raccomando, cosa di utica. Non è che mangia i ragosti. Allora, sai che essendo... come molti, diciamo... questo verme, in particolare, è immune a cose che influenzano la mente. Mind affecting, ovviamente. E che essendo un mostro di grossa taglia è meglio non puntare su le cose che richiedono un tiro salvezza tempo, tiro salvezza tempo. Ok. Invece so come va sui Will. No, non lo sa. Mm-hmm. Sì, tutto quello che è meglio non andare sui forti. Certo, non ho mai da fare dei muri. Quindi. Ok. Sai che ha un potente veleno, da cui è meglio stare attenti. Che è incanalato negli attacchi. Ovviamente, nel pungiglione. In un bel tier, in uno degli attacchi. Nel pungiglione. Insomma, pare di certo. Quelli più piccolini invece sono ovviamente meno pericolosi, anche il loro veleno è molto più facile da resistere. E non c'è nulla di notevole riguardo ad essi, probabilmente anche loro sono un po' più tenaci dal punto di vista della resistenza fisica, come quello là, però nulla che non si possa superare. Ho capito. Questi qua invece non sono immuni agli effetti mentali, quanto pare. Ah no, sì che lo sono, scusa. Fate attenzione al veleno dei piccoli, ma soprattutto del grande. Non fatevi colpire dal suo pungiglione se ne siete capaci. Facciamo che lo colpiamo a distanza, allora. Vai. Ma quindi non lo. Cioè, scusami, non ho capito. Figata. Se No, questo non lo sai perché è troppo una figata. Cazzo. Quindi vabbè, non lo so se così, sono contro i danni da fuoco. Sono immuni ai danni da fuoco. Lo so che gli ha dato una buona abilità. Cioè, una buona, un'abilità un po' interessante. Okay. Non, non con la solita roba flevorosa di merda. Come vi approcciate a lui? Io so che è nel vostro round lanciate incantesimi, fate cose. Sì, ti ho detto, io mi lancio Overland Flight. Ok. Io sono in Ira. Tu vai in Ira? Non ho quello degli incantesimi, quindi non mi ricordo come si fanno, però mi ricordo. Ma tu non c'è qualcosa per buffarti, perché a distanza no, perché dovete portarmi. Sì, è Invisibility Greater. Oh, Invisibility Greater. Ah, minchia, può essere un'idea. Non so se c'hanno. Ah, tu sai che forse è un po' inutile perché finché cammini ti beccano questi. Velocemente, infatti. Che cammini ti beccano perché hanno tremolo. No. Beh, anche finché attacchi. Ok. Fly, però. Magari vuoi. Se no, usa di però, scusa, non sono flat footed, no? Lo sanno. Tremor Sense è difficile beccare il flat footed. Però puoi farti. No. Se fa Dimension Dog si mette di qua? Fly tu però in fisico. Io lo farò su di lei. O potresti farlo tu su di lei. Non partecipa a Dor, ovviamente. E Dimension Door. Poi ho Black Tentacle. Tu potresti buffare lei. Farle fly. Se fa Black Sono immuni a cose. Se fa Black Tentacle su una questa di blocca. Hai preciso un danno. Non è male come idea, però. L'altro motivo per cui era strada potenziata è che erano immuni a precision damage, quindi non faceva i 3 di 6 ogni attacco. Se faccio Dimension Door e Dimension. No, tu dici. E vai lì. Sì, puoi farlo, fai fiancheggiare tutti. Ah, però se vai qua. Rischi di essere accerchiata. Rischi di essere la prima che. Vabbè, intanto baffo lei. Dai, fly. Cioè, potrebbe dare fly a lei, secondo me. Così mi risparmi di farlo io, che non è male. Sì, esatto. Perché... Sì, perché poi io ho East, ma dopo mi sembra che lo fai tu di solito. Sì, sì, sì. Quindi, cioè, possiamo fare questa cosa. Fai così, poi, scusami, fai... Dopo fai il Black Tentacle, me lo tocchi un po'. Se non scappano... E che non... Cioè, non, avendo segnato tutto, non mi... Non qualcuno potrebbe anche beccarlo, non è male. Sono lì tutti belli aggruppati. Vabbè, intanto faccio con lei, però non mi ricordo come si fanno, perché li ho segnati. Io volevo dire, no? Cosa? Fai fly. Come devo fare, scusa? Niente, la bocca. Basta 60 feet di... Cioè, volo? Per quanto tempo? Occhio che non è proprio una roba facilissima di fare delle prove, perché... Vabbè, intanto urlo solo, ma guarda, mi volo anch'io! Più 6 e poi più 5 di destrezza, insomma. Più 11. Beh, 11 è buono, insomma, per fare... Ma proprio la destrezza mia era più alta, Non hai più 5, scusa, hai detto che hai 20. No, no, eri più alta della mia. Avevi distrazza più alta della mia. Okay, ah, più 7 quindi, scusa. Scusa, la mia distrazza mi era sui... Beh, già fa 10. Mi sembra che era tipo 24. Boh, allora ok. Perché te l'ho guardata l'altra volta e ho detto, più distrazza di me, mi ricordo sì, ma era alta la mia distrazza con la principale. Per allora non era più 5 più 2, era proprio più 7. Per stare fermo devi fare prove. Ah, vero. Cazzo, è vero, per stare fermo devi... Quant'è la prova per stare fermo? Che lei deve fare full attack. Vabbè, prima te lo chiedo, cioè se vuoi che... Ok. 15. Ah, 15. Beh, non è tanto. Adesso sommate 10, 11. Sappiamo se sommo 11 o 12, tipo. Beh, anche se sommasse 11, vuoi dire... A cosa? Te fa 4 su da... Sì, non è male. Stare fermo quando voli. Che cosa devi fare? Ma quanti riusciti mi sono? Devi fare destrezza e più 6, perché lei c'ha un castello level 12. E dopo la mia destrezza era... 24, allora è più 7. 7 più 6 fa 13, quindi devi tirare 2. Aspetta un attimo. Direi si può fare. Ma se ci dai, se no. Ce devi tirare 2, direi che si può sì, fare. Sì, si può fare come? Ma se arrivo subito che il sacco non ce l'ho. Figurati. Ti viene tagliato? No, mi sono fatto le sciche. Le sciche di bridge. Papa! Ho passato due giorni, sta giocando al wrestling, non so se avete mai giocato sulla PlayStation 2, quello che lì è solo che giocavo con difficoltà max, quindi quando poi inizi con le sci. Madonna. Ok. No, anche a me è successo un sacco caldo. Quando lì continua a premere una qua e una qua, quindi. Vabbè. Ci si può fare delle vesciche per questo? C'era una puntata di CSI dove c'era un assassino che veniva beccato. Perché tipo c'era tutti i pollici pieni di vesciche perché giocava, era un beta tester di giochi da PlayStation. Che figo! Grande! Dopo ti prendo la crema, adesso ti che crema? Ma che crema? Ok, allora gli faccio fly. Le faccio fly, scusa. Va bene. Tutti gli altri vanno in cosa devo fare quindi? Sì, ovvio. Niente. No, i tagli. Io faccio anche lui. Per stare ferma devo fare. Comunque, diventi. Comunque, dopo che siamo. Tu hai detto una cosa molto giusta. Cioè, dopo che siamo avanzati. Secondo me è una buona idea spostarti qua per farti ancheggiare tutti, capito? Cioè, però prima è meglio che uso Black Tentacle o lo faccio da qua? Devi iniziare a sbattere le mie braccia come se fossero delle vere ali. Se vuoi usare Black Tentacle, fai subito. Ma stiamo facendo volare il corpo, seriamente. Benvenuto, benvenuto! Dai, ma te lo so, dove sono? Ma guarda! Basta. Sei in buona compagnia perché volo anch'io. Io faccio così. Però meno 40 piedi. Io sono sotto così. Ma no, perché cioè io pensavo. Io faccio una capriola dimostrando la mia abilità nel volare. Che io uso. Io cerco faccio di una prova. Dritta per rischio di cadere? Meglio di no. No. Ma vediamo quanto faccio. Dai, non riuscire a farlo. Vediamo. Faccio 12 più. Tipo. Gradi tu anche. Sì, tantissimi. Sì, ce la fai tranquillamente. Gradi più 6 dello spell. Basta cazzeggiare. No, non dice così. Ho 17 più 12, 29 più 6 di 35. 35, faccio un triplo abitamento. No, perché volevo vedere come aveva acabato. Ma abbiamo ucciso un. Sì, non abbiamo visto farlo. Ah, cioè perché tutto il tempo è stato giù. Allora mi su quando ho sentito calma. Si guarda lo spettacolo allora. Se no, voi non vi divertivate. Cioè, ci va tutto lui e basta. Cioè. Quindi posso avvicinarmi e dare botte. L'idea è quella. No, dovete. Cioè, voi arrivate a un certo punto della griglia. Arrivati tipo al limite della griglia e poi ti chiamo iniziativa. Iniziativa? Iniziativa. Cioè non è proprio così che dovrebbe fare, ma sì, chi se ne frega, sennò ci passiamo troppo. Bene, cioè. Ma no! Minchia, che cazzo? Se ho tirato uno posso comunque fare. Cioè, va bene o tipo fare. Avete la macchina? No, no, va bene. Ok. Vabbè, sì, non male, dai, un tiro medio. Un tiro medio. Io ho avuto le ferite anche lui sulle mani. Ho tirato 3 dadi e ho fatto sempre lo stesso numero. Io ho fatto un 18. Mi dadi? Dove sono? Qua, Dodo. Ho un di 20. Beh, non ho che abbia fatto un. Dammi tutti i dadi alla schetta. Se voi ce l'avete. Sì, sì, sì, io ti ho già preso un di 20 e un 2 di 4. Di più non dovrebbe servirmi. Ho usato 3 dadi diversi. Quanto hai fatto? 1-1-1. Bravo, amore, sei fortunato in amore, te l'ho sempre detto. Cioè. Adesso devi decidere quale usare. E già si vede che non sono più iniziati a 21 questi, sono quello vecchio. C'è qualcosa che non va. Chi è che sono a 21? Quello il mio, quello dell'altra volta, insomma, a 21 iniziativa. Poco forte mi dicono, eh. Questi sono manzini. Io tiro anche male. Giusto. Quando vuoi chiedici. Come si fa? Ma cosa ho fatto? Avete fatto, chi è che mi ha fatto meno di 9? Ma in totale intendi? Sì, in totale. No, ho fatto 13. Tutti avete fatto più di 9? Sì. Uh-huh. Allora agite prima voi e poi agisco a voi. Chi è primo? Chi è primo? Tra di noi, io. Cosa ve ne frega? Potete ritardare. Io sono il primo. Ha importanza chi è primo di voi. Vuoi continuare a fare il primo? Per... No, agisci dopo, no? O è sempre primo? No, faccio east. Vabbè, però effettivamente vi do loro possono ritardare comunque, no? Loro possono ritardare. Appunto dopo. Dico, cioè... Agisco io per primo, nel senso che voi ritardate, non ah, sì, perché sì, sì. Infatti, è un modo per velocizzare comunque l'iniziativa e fare dividere così: prima dei mostri, dopo i mostri, tanto non cambia niente. È vero. Dipende se i mostri sono tutti uguali. Sì, chiaro. Dipende se sono tutti. In questo caso, visto che hanno fatto entrambi meno di, certo, di voi. Sentite. Vi disegno. Beh, io ve lo faccio io. Come vi siete avvicinati? Voi magari dietro con i caster, che ne so. Cioè, tu dietro, no? Immagino. Sì. Io pure. Io dietro. Io vado almeno a tiro 30. Io sono davanti. Aspetta, devo trovare dei simboli qua perché. Un fazzoletto? Sì, grazie. Non te lo cerco, eh? Non lo so vedere. No, se vuoi io. Posate perché. Allora, vediamo un po' cosa posso associare. Tu a te faccio questa sorta di V che è una A in realtà. Poi. Allora. Al corvo faccio una C, che sei tu. Sì, che no. Vado a prenderti se vuoi. Poi. Sono sempre messa a topo, sì, corvo, sì, ratto. Sei tu che scegli sempre bestie antropomorfe. Te li sta portando sì. Grazie. Niente. E poi vediamo. Per farla io faccio una roba così. Giù, posso andare un attimo in bagno? Certo. Quale devo andare? Quello sulla scegli sinistra? Tu. Scegli tu assolutamente. È uguale? Che vuoi, sei sicura? Ecco, sì. Mamma. Per fare il barbaro faccio un punto. Tranquillo. Cosa? Cos'è che sono io? Un punto. Perché sono un punto? Perché è più facile disegnare. Io sono scusa. Tu sei queste tre lineette che sono una E di. Ok. Va bene. Il punto perché è semplice come il barbaro. Scusa, giusto. Io c'è cioè, l'incantesimo di Fly, l'ho tirato prima dell'iniziativa, giusto? Sì, ok. Si può sbagliare anche a fare un barbo, cosa pensi? E quindi adesso tocca a te. No, semplice non da fare, nel senso. Come, da, così, concettualmente. Sì, sì, concettualmente. Come design, diciamo. I quattro punti sono bellissimi da barbaro. Ah. No, no, da fare non è facilissimo, cioè ci sono tutti i rage power da scegliere. Cioè. È più facile. Tipo, sai che ce n'era uno? Tipo il Gastinger è più facile, non devi scegliere niente. C'era un rage power che era abbastanza simpatico. Quello con. Sì, è un po' lontano Mucci, però mi sembra giusto perché gli... si sta avvicinando. Sì, cioè, sono più o meno una distanza decente. Quello con gli energy. Io beh, direi che comincio con un'invocazione. Non fai ace? Sì. Ah. Una cosa non preclude l'altra. Sì, tu fai sempre ace prima, così poi sono tranquillo. Faccio ace. Sodoma? E Sodoma fa ace su tutti voi. Bravo, Corvetto. Ok, così sei tranquillo. Segnatevi sulle spunte. Ecco, bravo. Ciao, signori, aiuto. Spuntiamo ace. Spunta ace. Giulia. E poi comincio a fare un'invocazione a mezz'aria. Sono in alto. Giusto, sono in alto un po', no? Mi sono avvicinato in alto, cioè fuori portata da lui. Sì, no, sì, sì. Cioè, sono salito piano piano per arrivare. Sì, dovevate disporre voi, però non me lo dicevate, quindi mi sposto io. Cioè. Sì, dovunque va bene. Cioè, così va bene, però basta che sono in alto. E finché sono così lontano, comincio l'invocazione. Lo vedrai. Sì, ma occhio che c'è un certo range, qua sono tanti quadretti alla fine. Non è close. Sì, è close. 1, 2, 3, 25. Li faccio poi, li faccio camminare, non mi voglio avvicinare troppo. 10. Cioè il fatto è che se mi avvicino non posso farlo. 15 quadretti. Cioè se mi avvicino è un full round. Potrei usare. Beh, lui le può fare 12 più 5, quindi può comunque metterli abbastanza. Allora facciamo così, usa. Però è in alto, quindi in realtà no. Quanto che sei in alto, quindi è un po' indietro. Fai che devi fare tipo qua. Beh, ma già che si rifà qua. Sono 25 più 5 per il livello. Sono un bel po'. 12 di livello, 12 quadretti più 5, che è 25. Esatto. E quindi arrivano circa qua. Detto che sono 25 quadretti, no? Sì. Da qua, dove sono io? Fare più... Però sono 25, quindi allora niente, 29. 12 più 5 è 18, quindi più o meno qua li puoi fare, perché sei anche in alto tu. Infatti pensavo di farli circa lì e poi farli camminare. Sì, va bene. Fatto circa, sì, circa qua, perché poi c'è 11 quadretti. Faccio così. Basta. Ok, loro c'ha tutti east. Mm-hmm. Io carico. Vai subito. Non so se ci arrivi. Niente. Appunto, cosa faccio? Scusami, spiego... Ti avvicini e prepari l'azione. Ok. Meno che non arrivi un piccolino. Ok, col piccolino, però mi sembra. Ultimo, fare il quadro più velocemente, puoi arrivare subito qua. Mm. Ci sta, così poi non hai. Ok, c'è una zanzara lì. Sì, no, ma spiace, cazzo, tipo magari. Sì, ma così vado qua. Visto, puoi farlo in linea retta. Sì, se non puoi andare proprio dietro, sì. In effetti non devo lasciare un bel canale così per arrivare, ma fa niente. Vabbè, però ci sta. Io posso già fare... Loro sono large, suppongo. Posso già fare lungo lì, quelle cagate lì? No, hai fatto un'azione non completa in questa mossa. Ah, già, è vero che sono qua dopo. Sì. Buono. Potete... Tu cosa fai? Mi sa che va prima lei, Mi sa che tu è uguale. Ah, ok. E io volevo fare Black Tentacle, però non so come fare. Non so se sei, non sei a portata di avvicinarti prima. Beh, puoi invece... farlo. È una bella idea. Qua. Se no faccio Dimension Door. Ma puoi fare uno o l'altro, capito? Sì. Secondo me è un'ottima idea fare un Black Tentacles. Okay, magari... Però sono large, bisogna dire questo, sono large. Vabbè. Però si ci sta. Beh, magari anche se ne blocchi due. Mi rompi il cazzo, capito? Quindi faccio quelli piccoli, cioè mi butto su quelli piccoli. Sì, sì, su quelli piccoli, certo. Allora, ti avvicini qua, immagino, tipo... Sì. Devo avere di 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi Black Tentacles, non vorrei dire una cagata, ma forse tipo 40 feet radius. Comunque può essere. Black. Può essere bellissimo. Ma cioè, dovrei arrivarci. Fino a qua c'è il tantissimo di quarto. No, dico con Black Tentacles. Di quinto per il mago, di quarto per altri. No, di quarto per il mago. È che non mi ricordo come si fa. Scusate, che ho segnato. Ah, no, scusate, 20 radius. Beh, 40 feet in tutto. Mi ricordavo diverso. Ok. Cos'è il range? 100 feet più 10 feet per livello. Ok, easy. Ok. Dove puoi piazzarlo? Puoi piazzarlo dove vuoi praticamente. Cioè. 40 feet sono 8 quadretti, cioè un diametro... Quindi in realtà ne prendo due. No, sono no, puoi prenderli tutti questi, penso. Ok, allora faccio così. No, un diametro di 8 quadretti. Sì, quindi lo piazza qua, tutti. 4 e 4. Ah, puoi metterlo qua forse anche. Sì, ti do il coso rosso. Sì, grazie, rosso. Bravo. Ah, per te. Okay. Non mi ricordo che dado devo usare, scusate. No. Nessun dado. Mi attenta con le... Non gli altri che si devono preoccupare. Esatto. Di chi dado usare. Sostanzialmente quando tu lanci incantesimi, scusate. Questo qui non è un incantesimo che fa danni, no? L'incantesimo serve per rompere i coglioni. Scusate, se lo tolgo vi dà fastidio. No. Ok, poi glielo ridò, non è che vi tolgo il cibo. Davide è a dieta, quindi non può. Esatto. Allora, at the beginning of your round... including the round in cui ha castato, quindi usano il tuo caster level come bonus attacco base più 4 di forza più 1 di size, un po' sì, quindi abbiamo 12, sono bollenti, 16, 17 più 17 di CMB. Vuoi aprire un attimino lì, tenere qualcosa che tira un attimo? Se avete così chiaro. No, però devi tirare il CMB, è vero, Danilo, devi tirare il CMB. Ah, lei deve farlo, sì. Cos'è che devo tirare, scusa? Ne fa uno per tutti, somma 17. Più? Un dado da 20. Contro il CMD degli altri. Non sarà un però... 12. Oh, bene, 29. È buono, è il prossimo classistico. Capito, però... Se poi avete freddo richiudo, solo per... Così, no? Io li becco proprio tutti. Ma fatto sì qua no. No, però forse okay. 29... Devi essere completamente dentro l'area per essere... Ah, no, direi di no. Non mi pare. No, vabbè, il concetto è che ti afferrano, quindi direi di no. Ho fatto 29, basta? Per, diciamo, cosa che fanno, li grapplano? Sì. Ma devi fare, cioè, rimangono i quanti tutti poi? Sì, sì, basta. Sì, tutti presi. Bravo. Sì, ma tutti basta, sta lì. Sì. No, non posso farle prove a riuscire a scappare. Esatto. Tipo le bloccate lì per X-Turni. Ci sono i Black Tentacle. Quanti turni? I miei Black Tentacle. Davvero? Sì. Quanto dura round? Mi pare che duri round, però forse non è, non lo so. Sì, round. È dispellable anche. Quindi per 12... Brava, bella idea. Allora, io che sono C. Sei C. Ho un nome. E io sono il punto, ascolta. Sei corvo. Non era. Allora, io mi devo avvicinare entro 30 piedi, che sono... Un sacco, devi muoverti un sacco se vuoi avvicinare entro 30 piedi. E non posso prendere poi, nessuno. Poi si muove 60 piedi, Volando. Meno armatura, però no, c'è la leggera. Okay. Beh, quindi, se vuole può mettersi qua. Esatto, un pochino più lontano. 12 quadretti, 60 piedi, giusto? 12? Mm. Io comunque 12, 3, pensavo 4, di mettermi... 5, 6, 7, 8, 9, 10, qua. Tipo qua. No, ma lei non deve essere entro 30 feet. E vola, quindi deve essere anche un po' più vicino. Eh sì. Ah già. Qua? Deve essere tipo... Deve essere entro, direi, 4 quadretti. Qua? Sì, ma non colpisci il ciccione. Non il ciccione? Così non sai entro i 4 quadretti. Ragazzi, sono grosso. 4 quadretti vuol dire qua. Cioè, guarda che bella questa proporzione. Ma sono io. Lui? No, il dito. E io c'ho il... Perché è un po' difficile da... Bravo. Scusate. Vabbè che non ci disegneremo, però. Aspetta un attimo, scusa, sto... Sì. Mi ricordo una cosa. Sì, devi andare lì. Però ti muovi e basta se arrivi fino alla missione. Anch'io l'ho fatto, quindi se ti metti di qua forse è meglio addirittura, perché tanto sì sono grapparate. Per muovermi e colpire... Tu vedete una serie di scorpioni giganti avvolti da tentacoli neri che gli stringono stretti. Poi pensi che saltano fuori dalla sabbia, no? Quindi è bellissimo. Sì, è vero, ma tu nella sabbia. Se io invece voglio muovermi e colpire, tipo se arrivassi qui, andrebbe bene? Muovermi e colpire. Diciamo che non sei dentro il primo range increment, quindi non penso neanche si attacci il colpo. Io mi muoverei e basta. Va bene. Idem. Allora mi metto qua. Vabbè, se faccio qua. Se non c'è neanche di essere raddoppiato. Vabbè, però un attentino, tizio, che sono solo raddoppiati. Ho sbagliato a preparare un incantesimo familiar. Perché ne ho preparati tre, in realtà ne posso preparare solo due. Lo cambio, posso cambiarlo? Beh, basta che non cambi la East che è appena lanciato. No, quello no. Che comodo. Stai facendo? Io con le ali. Dai, cancella che devo metterci le cose poi. Che merda, non sono preparato. Tu puoi essere un quadretto. No, preparare qualcosa. Non appropriarti i quadretti altrui. Tu stai volando? No, mi hai detto. No. Ho fatto fly su lei, per forza. Cioè, in realtà ne ho due di fly, quindi in teoria. Però un'intelligenza trattino, non mi frega niente, ti lancio di tentacoli, direi. No. Ha un'intelligenza trattino? Direi. Della serie. Ok, vedo quindi vanno da quello grosso con l'ascia davanti a loro. Cioè non ho un'ascia, ho una spada. La spada, sì, scusa. Ma perché sono ciccioli? Sono puntini, sono piccolo. Un stereotipo. Un stereotipo. Se avessi fatto probabilmente l'occhio, avrei preso anche l'ascia proprio. Ti attacca con le chele. Ferma, dice il come and get me, ragazzi. Anzi, prima delle chele. Ragazzo, ho il come and get me. Usa il pugilione prima, però. Poi ho il come and get me. Fai sto cazzo di come and get me, non rompere allora. Mi nasce di critico. Mancato, così impari un po'. Scherzo, non è vero. Mi nasce di critico. Ma te che sono, mi scusa. Vabbè, non dovuto da fare. 29 colpito. Potresti confermare. 29 colpito. Ricorda sempre che hai un più uno. Ah, 30? Poi si può fare il più uno di Ace. Sì! Muri! Allora. Sto coming at you di merda. Oh, che godore! Ho mandato completamente. È pure il cristallo, che top! Mi presti un altro due dei qua? Un altro sei loro alleati. Mi presti un di 4? Sei loro alleati! Mi presti un di 4? Se ce l'hai. Questi non sono miei. Mi presto un bel niente. Te lo toglio. Dai, dammi. Ma non puoi lanciare due volte? Sì, dai, non mi fare aprire. No. Faccio due volte. 5. 8 più ma ne hai un altro? Sì, vabbè, ormai ho già tirato. 8 più cos'è? 28 per 2. 56 più 8 64. 64 danni. Peccato che sia solo per 2 e non per 3. Posso? Adesso puoi attaccare. Posso? Ricorda che tu hai danni alla costituzione. Io no. Lei. Lei. Colpisce una 30. Colpito. Devo fare il PS? Beh, inizia a pigliarti 21. 21 danni. Ok. Fai il TS. Tempra. 17 più X di... Se vuoi ti dico quanto sono. Più 14, no? Sì, dovrebbe essere così. Mi ricordo perché ti ha salvato la vita con questo. Ah, sì? Sì. Superato, no? 31 superato? Sì. Bene. Ok. Se fanno danni da fuoco, dimmelo. Fa un altro attacco col pungiglio e ti direi, ma come? Un natural attack, può farne uno solo. No, Midos? Perché era quella. Ah, la veramente? Con una swift action può fare un altro attacco col pungiglio. Ah, bello. Infatti, una peccato, volta la vita che non si ha. Ma non hai deciso di far fare doppio attacco ai boss? No. Quelli sono altri boss tipo che sono da soli o particolarmente boss. Giusto. Questo qua è un... Giusto. Vedi, se qualcuno non avesse... È un rompicazzo. Se non avesse come si... minaccia di critico. Vedo, si accomodi. Bel 20 natural. Si accomodi. Non c'è una figura di C quando minaccia di critico. Peccato che qualcuno mi ha... Confermata. Ne ho fatto il coming at, altrimenti ci sono scoperto di meno adesso. Sì, ma veramente, cioè, ma che cioè, era già morto, Era già morto, infatti. Cioè... Vabbè, non era già morto perché era tanto la seconda attacco. Beh, ma è un altro critico. Allora, che bel tiro che ho fatto. 6-6-5-2 sui di 6. Complimenti. 12-17-2-19 più 26. 19 più 26 fa... No, 45. 45. E fammi ancora più salvezza. Meno 45, aspetta, meno 45 più 2. Ho già 81 PF, sembra così pochi adesso. Vero? 17 è fatto solo. Totale? Sì, è stato un 3. Che me l'avevano fallito. Mi ha dato un 4 sul D4. Ah, subisci 4 danni alla forza. Che pareva, perché era la forza? Non poteva essere, che ne so, alla destra. Ah, no, scusa. Un attimo. Il carisma, no. Niente, la forza. Insomma, tra il carisma. E 2 danni alla costituzione. Ah, bene. Altro? No. Segnati nei malus che prendi meno 2 al tiro per colpire i danni adesso, Caro mio. Quindi cos'è che... Scusate, cosa fa il veleno? Danni alla, alla forza e alla costituzione. Minchia, solito. Ah no, anche alla destrezza, scusa. Sti cazzi. Beh, è un danno alla destrezza. Minchia. Scusa, Danilo, ti posso chiedere una cosa? Questo spell, no? Mi sono... Questi disegni che in teoria dovevi farlo nel tuo primo round. Poi la prossima... Cioè, adesso il primo round è bonus, no? Ok. Ah, dal prossimo round in poi, quando tocca a te, ricordami, se non lo ricordo io, che devo tirarti. Tu devi fare un TS ogni turno. Ti volevo chiedere, questo incantesimo ti rende helpless, no? Quindi in teoria potresti prendere il cubo del grasso, però. Cioè, sei dentro il ghiaccio. No, beh, il concetto penso che sia sottile. Dice che è un ink. Appunto. Cioè, beh, è un ink per caster level. Vai a vedere. Mare. Non so. Sì. A me non mi danno la costituzione. 12 pollici. Effetti di nuovo lì a un certo punto. E come faccio? Come si fa a fare il coup de grâce? Sì, tra l'altro dice che blocca line of effect. Quindi è abbastanza chiaro. Questo è di Veronica. Perfetto. Scusate, ma e non puoi, però resta lì comunque. Sì, resta lì. Quanti PF mi devo dare? Per un minuto. Un minuto per livello. Nel senso, per minuti. Cioè per sempre. Per quanto mi riguarda. Beh, dipende, perché se lo fai sul grosso. Ma però non so se i grossi sono affected. Ci vediamo. Vabbè. Non ve lo perché no. Scusa, avendo due danni alla costituzione. Giusto. Avendo la mia posizione, quanti PF sarebbero che ho in meno? Non sono più raddoppiati, quindi sono 20 qua. No, 12. Ah, ti ho dato anche hai due danni a costruzione, giusto? Quindi 12 PF in meno. Tu hai dato la costruzione, giusto? Sì, esatto. Quanti? Uno? No, due. Due. Quattro alla forza, uno alla destrezza e due alla costituzione. Occhio che se uno alla destrezza, se era pari, c'è comunque un mouse di meno uno, Sì, sì, lo vedo. Non so qual è, se lo guarda quanto ho. Va bene, tocca a voi. Ah no, scusate, piccoletti. Sì. Quelli lì provano a liberarsi da grappo, vediamo se ci riescono. La CMD quant'è? Quant'era il bonus di CMD? 17. 17, quindi la CMD è 27, banalmente. Ah, devono fare contro la CMD. E loro non deve rifare lui un tiro, no. No, loro devono cercare con la propria CMB. Che facile, ok. Superare il CMD. Cioè, dico, facile da ricordare. Non so perché, ma la vedo un po' nera. Okay. No, la vedo nera in generale. Ho 81 BF. Ah, hai preso quanti danni tutto? No, è una barcata. Da 143 sono andato a 81. Ah, uno riesce a liberarsi. Ho fatto un critico. Uno riesce a liberarsi. Sì. E va da questo qua. E va da E. Che è? Lei. Io sono. Che è che si libera? Questo qui. Era l'ultimo, tra l'altro, le piatti hanno fallito. Tra l'altro, questi che agiscono adesso. Non so cosa fanno. È una standard action, no? Quindi fare questa prova di grappolo per liberarsi. Sì. Quindi va solo lì e basta per ora. Scusate, ho una domanda. Io avevo preso come un incantesimo per non prendere attacchi di opportunità, però non mi ricordo come si chiama. Sì, era burst of speed. Dipende per secca per camminare o burst of speed? No, perché ho messo mai? Burst of speed, sì. Mentre cammini, burst of speed. È buono anche Swift. Quindi posso farlo? Per farlo e fare anche altro. Adesso tipo non ti serve. No, è TB di se è per camminare in mezzo ai nemici. Un 1, un numero e basta. Ok. Gli altri invece. Allora. Oh. Uno si muove e basta e va da E, questo qua. Sono botto. Io poi quello lì grosso. Perché questi mi hanno fatto 4 danni alla forza, la costruzione della destrezza, voglio vedere cosa faranno gli altri. Vabbè, gli altri sono piccoli. No, questo qua. Ma questo l'ha fatto il grosso. Ah, io pensavo non avesse fatto il piccolo. Ma stavo dicendo, minchia. Mi ha preso male. 10 di questi qui. Cioè, infatti mi sono detto, cazzo, cioè. 3 danni da 4 alle caratteristiche per 10. Cioè, ho detto, cazzo. Sono morto praticamente. Che mi pazzo. Detto. Uno va, questo qua va qua. Non puoi attaccare l'opportunità. E no, fai 1, 2, 3, 4. Quanto si muove? Beh, ma dipende da C al massimo, no? Dal corvo e vola e non fa attacchi a voglia con la mia quindi. Peccato, l'ha dovuto mettere già oggi lo fa va bene però soltanto vicino a lui. Vabbè. 50 feet sono 10 no 5, sono 10 quadretti vabbè ce la fa quindi sì cioè va qua sì, fa il giro semplicemente. Ok, questo si avvicina, fa un passo a metro e mezzo. E questo quanto cazzo fa poi? Ma compagnia. Minchia. Questo. Non sai dove metterlo. C? Sì, non so dove metterlo. Rimane lì. Ma ci vola tanto. Boh, si avvicina a De che c'è spazio, perché lei non può attaccarlo, quindi si muove e basta. E va qui tipo. Devo evocare in fretta. Ma minchia, lui deve anche evocare. Ma... Eh sì. Beh. Meno male che hai fatto bene tempo. Come. Sono problemi. Tu, allora, tu vieni colpito due volte. E tu una sola. Devi tirare. Pare. Col di 20? Cioè. Aspetta, io devo tirare. Ah, scusa. Secondo me lo devo. Allora, anche questi uno ti fa un full attack perché ha fatto solo il passamento. Iniziamo da lui. Secondo me lo devo. Anche questo fa il veleno. Aspetta, c'ho il coming up. Giusto. È una volta. Ah, una volta in tutto il round. Mi ricordo detto se era una volta per ogni persona che attaccava. Sì, giusto, vero. Cioè, sì, ci sta. Giusto. Vai. Altrimenti non lo prendo. Aspetta, prendevo. Quello è 3. Probabilmente non va bene anche questo. Insomma. No, è preso una cosa più forte, cioè. Non lo so. Comunque confermi 15 allora. C'ho un piccolo confermi 15. Fatto quanti danni hai fatto? 65 non era neanche il tuo round, quindi vediamo quanti ne fai adesso. 12 più 24 per colpito. Purtroppo niente critico. Niente critico. Che schifo. 1-1 e 28-30. Aspetta. Sì, esatto. No, però ho meno 2, meno 1 danni, quindi sono 29. Segnati anche che hai. Qui nel totale segnati anche meno 1, cioè quindi. Beh, più 0. Usalo. L'ho fatta, usalo. Non è messi malo, spero. Colpisce una. No. Se più di 20 è colpito. No, 6, 12, 18. Mancato. Contando che hai mano sa destrezza anche. Destrezza è meno 1, giusto? Sì. Quindi 19. Comunque mancato. Mancato. Contando anche il bonus del più 2. Ah, Ace gli dà un più 1 comunque la CA, eh? Anzi, ah, sì. Ma lui ha più 4 per il coming at me, giusto? Ah, è vero. Non più 2. Andiamo. Cioè, più 4 ma solo al primo attacco, giusto? Fatto così. In che senso? Vale. No, scusami. Ho il massimo del bonus. Lui dà il bonus sul coming get me. Cioè, tu dai un bonus per colpire il coming get me, no? Sì, sì, in teoria sì. Però non so se voleva. Ah, hanno detto che era più 4, mi pare, ma solo il primo attacco, quello su cui facevi il coming get me, no? Sì, beh, sì, se no non avrebbe senso. Beh, perché no? Anche esponi. Avrebbe senso e come, cioè. Anche farlo su tutti, visto quanto è forte. Ma facciamo che era solo il primo. Ok, allora ti colpisce. Che pare. Vabbè, questo però non è così forte. Ah, mi sono dato di grabbarti col ciccione, vabbè. Ormai è tardi. Ma ti ho fatto solo gli attacchi di pungiglione? Sì. C'era anche le cloaks. Ero morto. Infatti, era probabilmente era morto. Ma va. Ho 81 PF. Totali? Ne aveva 140 e l'hai dimezzato. Con un round. E gli ho fatto solo il pungiglione. Due critici. E uno ha grittato per quello. Però ho 5-5-6-6. Però, boh. Tiratore i falli, ormai dimenticati. Se devi farli, falli, cioè non è un problema. Ancora tu uno dei cattivi, diciamo. Però vabbè, fa niente, dai. Stavolta l'ha calato. Basta, la prossima volta sto detto le linee nemiche dietro la uccidere io. Non so, se lo uccidete però mi scoccia adesso. Vabbè. Come se lo uccidete? Perché gli vuoi fare le close? Fagliele! Dai, fagliele! No, il fatto è che se non lo uccide lui, uccido. Tanto se rischia di morire lo salvo io. Se non lo uccido io il coso è il ciccione uccide me, cioè, capito? Ok, prima close allora per te. Ahia. Yeah. Aspetta, fammi i danni. Ah, no, vabbè, fa niente. Colpito. Ahia. Yeah. Ho fatto uno ma sono 150. Ah, ok. No. 8 più 13, 21 danni. 21, quindi meno 19. Seconda close. Più di 20 deve fare, no? No, più di 19. 8, 13, altri 21. Quindi vai a 40 PF. Madonna. 43 perché so. E ora ti grabba. Mi sa che è meglio che mi faccio fly. Oddio, lo grabba. Cazzo. 40. Non credo, 42. Se prova a mettere nelle chele. Mette nelle chele. Io, beh, però mi salvo degli attacchi dei nanetti, in teoria. Ok. Fa delle prove per combattere se sono grabbato? No. Mi spiace. Non c'è sta cosa. Tu dico un malus addio per colpire. Vabbè. Più 4. quindi quello di qui va. Ti mancava, sì. Ah. Sì, ma non ti conviene essere nelle grane, nelle piene, visto che non puoi fare attacchi. Tu non no, non puoi fare niente. Posso guidare. Posso fare l'urlo intimorente. Quanto hai di... Di cosa? Escape artist. Tipo zero? No, forse avevo dato le gradi, però... Vediamo. Io liberating command, però. Ok, questi ti beccano. Cioè, uno ti becca. Scusa un attimo. Pungiglione. Come pungiglione? Oh, scusa. Sono piccolo. Ah, aspetta un secondo. Perché io ho questo spell che è un immediate action, liberating command, però non credo faccia niente di che, perché è un... cioè, di primo. Allora, se è grapplato... può fare un escape artist check e oh, prende una prova uguale a twice il mio caster level. Ah, minchia. Massimo più 20. Ho meno 3 di escape più 20. Ho meno 3 di escape artist. Però di escape artist. E qual è la prova di escape artist per uscire dal grapple? Verso il suo CM di mi pare. Vediamo se c'ho scritto qua. Escape artist sono bel meno 3. Bene. Utile. Prossimo grado ricordami di mettere escape artist. Però non so se è nel range. Sì, close. Non è nel range, sai. E allora no. Tu sei qua. E allora no. Glielo faccio dopo. Se ci sarà un dopo. Se ci sarà un dopo te lo farò. Dicevo, fai anche io salvezza tempra. Non è lo stesso che io. 29. Direi di no. Superato. Capito. Vuole farmi fare l'agro, vedi? Fate lui. Devo farlo uguale all'agro. Basta. All'agro. All'agro. 5 danni. L'altro ti fa solo l'attacco di pungiglione perché si è mosso. E ti manca. Di me. A parte il critico che ti ho fatto. Ho 40 PF, cioè per fortuna c'ho la riduzione. Sono andato lì, l'hai caricati senza fare niente, cazzi tuoi. Cosa vuoi che faccia un barbaro? Vai e prepari l'azione. Aspetti che si avvicino piuttosto. Sei l'unico bersaglio, tra l'altro. Non ho calcolato il fatto che avessimo la metà dei PF. Non sono abituato, capito? Allora. Ok, tocca a voi adesso. Ah no, scusa. No. C'era un attacco per Ellen. Colpisce una. Di chi è questo? Ah, mio. Ma dove l'hai messo, amore? Te l'ho dato sua mamma, poi tua mamma. Ah, ok. Colpisce una... Una 16, direi. No, 22. Ok, buono. Tocca a voi. Tu evochi, no? Giusto? Sì. Per prima cosa mi avvicino. Di beh, 40... comunque, come è il tuo turno, compaiono. Sì, compaiono. Allora, va bene, faccio prima quello. Allora, li potevo evocare circa in questa zona. Sì, esatto. Li potevo evocare circa in questa zona, ma loro si possono muovere. Gli anchise. Un di tre più uno. 4 anchise. Bravo. Ci vola? Di tre più uno. Ci vola. Ci vola, scusa? Sì. Ok. Quindi... Sono huge. Huge 3. Sì, sono quadretti. Quindi non posso farlo qui, no? Sì. Sono dinosauri con. Ma ci arrivi fino a lì con raggio, no? E li faccio muovere. Ah, prendo un attacco di opportunità. Ah, tu ti fai muovere, dici. Cioè, lui tu li fai muovere. Li faccio muovere, cioè faccio comparire. Okay, sì, però lì poi non hanno raggio verso. Cioè, vuoi stordire gli scorpioncini. Mm. Sì, volevo tenere occupati gli scorpioncini. Magari uno non riesce a arrivare dal grosso. Sì. Anche due. Cioè, non so, forse si devono muovere solo. Scusate, adesso prendo gli anchise. Le smuoveranno di tanto, comunque, smuoveranno 50 flipper. Scusate, dovrei avere negli screenshot. Screenshot. Intanto che tu guardi gli anchise, facciamo magari qualcuno che è più rapido. Che sì. Tu devi buffare, fare altre cose. Quindi cosa vorresti fare? Vorrei, se ci arrivo, fargli un liberating command. Vediamo se ci arriva. È close, quindi 25 più. Dimmi solo se c'è qualcosa che per cui loro non dovrebbero agire prima. Mentre tu beh, io volevo provare a bloccare libero. Il boss, ma se non fa attacchi allora, d'opportunità. Facciamo che agisci tu che fai attacchi a distanza. Uh-huh. E sei, cioè, sei lì. Puoi uh-huh. subito colpire. Vai, inizia. Allora, anchise, ce l'ho. L'anchise. Ma lo fai per essere. Per vabbè, io colpisco il grande posto, visto che sono in alto, giusto? Sì, sì, sei anche dentro i 30 feet, quindi sono vicino al tiro per colpire danni. Ok, ho visto che hai fatto ace, infatti, ho una, sì, una è un attacco in più. Cosa fai? Bene, beh, deadly aim. Deadly aim era tu e con fighting, chiaramente. Sì, sì, sì. Beh, inizio col deadly aim comunque. Beh, fai tanti più, fai. Uno. 11. Quanto, scusa? 11. Totale? Sì. Colpito. Sì. Non vuoi sapere quanto hai di già touch questo tizio? Va bene, chi se ne frega? Due. Sì, esatto. Non vai a saperlo? No, così. Ha sparato. È un bel numero. C'è proprio due, eh. Ma dai, veramente? Sì. No, sono tre di sei. No, perché ne avevo guardato anch'io gli scorpioni in realtà. Forse c'è. Ti ricordavi sta cosa? Cioè, non me lo ricordo, però sai, no. L'ho sono detto. Entro i 30 piedi, quindi posso anche avere più uno. Quindi sono 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 più 16 fa. 28. 28 danni. Sono il mio turno. Il primo colpo. Il secondo colpo. 19 naturale, quindi direi che l'ho colpito. Allora, se non fai uno colpisci sempre. Ok. Cioè, ah no, 6, perché il tuo attacco sono più 0. 10. Comunque, cioè, 11, 12, 13, 14, 15. Cioè, 15. Se non fai uno, cioè, va bene. 15 più 16 fa 30. Ma dove sono? Ah, 15 sono più 16, 31. Allora uno lo mando qua. Cosa? E sono il secondo, poi terzo attacco. Sì, ti ricordo che c'è un'abilità carina con un grid point che potrebbe salvare il culo a Simone in questo momento. Io ho un'abilità carina col grid point. Sì, sì, lui non vola. Però che volevo bannare. Sforza la mente, forza. Pensa. Non te la dico perché è soltanto un sacco di come cazzo si chiama? Quello che lo mando prone in pratica. Come si chiama? Vabbè, anche se non sai Two Shot Knockdown. Tipo Twin Shock Knock. Ma lo faccio al l'hai colpito al... due volte. Quindi è il bonus. Ma guarda che sto colpendo quello grosso, Ah, c'è un limite di taglia, non mi pare. Madonna. No, qui c'è casino se è quello grosso o quello piccolo. Pensavo l'avessi preso tre, perché si era avvicinato di un metro e mezzo. Ma io ho capito che stai colpendo quello grosso. Sì. Pensavo che lui l'avesse preso tre. No, lui l'ha preso due. Va, prima me lo mangio. Ma comunque se è pro non vedo perché dovrebbe interrompere il grapple, cioè non è il caso. No. Solo che non fa gli attacchi, cioè non ne fa quattro, ne fa solo uno. Cioè, in effetti ha senso. Ma io non posso fare azione, non posso colpire con la mano. Devi cercare di liberarti. E basta. Fa un'azione standard, quindi sì. Ok, però io per il Twin Shot Knockdown. Oddio, dai, devo fare un tiro normale e spendere un grid. Allora, tu devi colpire due volte. Quando colpisci due volte puoi spendere un grid point e fai questa cosa, glielo apro, basta, fine. Ok, io posso anche farlo, ma poi da prono posso anche dargli il colpo di grazia? No. No. Come no? Che palle. Vabbè. Conta che se lui è prono però gli si alza la CA tipo di più 4, quindi non devi più fare più di uno adesso per colpire. Vabbè, chi se ne frega. Però direi che diciamo che è impareggiabile questa cosa. Beh, una cosa. Penna. Quanti sei? Ah, per il grit. Per il grit. Dai, terzo attacco, quindi è prono? Sì. No, cosa sto facendo? Cosa devo fare adesso? Io la provo con la tua dici tu di escape artist. Non so se ci arrivo, aspetta. Vabbè, vado avanti. Muovo del massimo di velocità, 8 quadretti. Se ero al che attaccavo era al terzo. 5, 6. 14 più 5 l'ho preso, 8. Ok. E dammi la matita, scusa. Ah, scusa. 6. Volando sempre. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 5, più 16 7, fa 32, bravo. E ora faccio questo che è più 0, che cazzo faccio? Vabbè, basta che fai 6 sul dado, cioè. 16 ho fatto, quindi l'ho preso. Non è difficile. Allora, quindi faccio 5, 5, 10, 17, 18, 19, 20, 21, no, 18, 19, 20, 21, più 16. 21 più 16 fa 37. Ne ho un altro perché ho l'ace. Ho l'ace. Devi farlo subito. Tanto lo faccio comunque col primo. No, perché si fanno prima gli attacchi col bonus più alto e poi col bonus. Beh, finish. Faccio comunque deadly aim. Top. Ma deadly aim di farlo sempre per forza se farlo fai sul primo, eh? Appunto. Faccio comunque il primo del. Sì, ma col 10. Nel senso, impara sta regola. Cioè, va sì. Bene. E comunque il 10 è. 8 più 18 l'ho preso. Non è che ci. Cioè, non è. Però. Cioè, sì. 12. Non sei ricordato. 14 più 16 fa 20. 14 più 16? Sì. 30. Cazzo. Basta, finito gli attacchi. Scusa, sei fatto tipo 120 danni. No, no, sono morto. Oh, devo ucciderlo io perché così mi riprendo il grid point, sappiatelo. È conciato malino. Ecco, quindi lo uccido. Tra l'altro è più pronto. Grazie a sto 64 danni su un critico di Kamenjetmi e 120 danni così. Perché ci piace più prono. Cioè, ma fanculo. Fai te. Fatto bene, fatti anche il clou. Cioè, devo farlo, devo farti 3 volte il clou. È vero. Posso anche fare 2 natural bike? 2 natural attack? No, perché sei a distanza. Ah, già, è vero. Però tocca a te. Tocca a me. Sì, dai, dimmi allora, come si muovono? E li ho messi così. Ci arrivi, questo si muove, non fa nient'altro. Va bene. E questi due. A qua, qui mi sono spostato qua e gli faccio liberating command. Va bene. Quindi fare... Puoi fare una prova di escape artist. Esatto. Però devo vedere com'è. Infatti. Tu già guardato. Aspetta. Escape artist ce l'ho qua. Allora. Ah, ma sai che forse aspetta, l'ho messo. Puoi fare una prova. Ah, bravo. Guarda. Comunque ce l'ho anche qua io. You can make an escape artist check in place of a combat maneuver. Check to escape a grapple. Quindi contro la sua CMD. Uguale. Ce l'ho qua. Grapples CMD. Me l'avevo scritto. Più 20. Da 20 più 20. Meno 3 però. Sta mia perché lui somma meno 3. Sì. Quindi ah. Io perché c'ha l'armatura pesante. Ah. E anche meno 1 la destrezza, quindi è meno 4 adesso. Sì, se col... Quindi sommi solo 16. 17 più 16. Totale? 30... 33. Cazzo! Non basta. 33, peccato. Giusto, no, 33. Cazzo, peccato. Vabbè. Ci stavo a tentare, più, tanto non più enemy detection. E non è diciamo una CMD alta. Immagino. Allora, sei lui. A qualcosa. Tu, quando il tuo turno, magari fai un Dimension Door. Vattene da qui, che questi idioti si vanno su, okay, su Banchise. Io dove mi sposto? Cioè, intelligenza trattina dal proprio su Banchise. Senti, posso sapere una cosa, ma per come sono idioti, se gli faccio il ghiacciolo su di lui, cioè questi qui lo vanno a rompere? Ma voilà. Non penso. No, no. Oh, io ci provo, senti, chi se ne frega. Il ghiacciolo. Ci voglio provare. Sodoma! Sodoma gli fa un ilomen. Bastardo. Cos'è? Come fa? Familiar ilomen. Come fa? Scusa, non ce l'hai? È di anche da mago? No. Però sono un Sansaran. Posso prendere degli incantesimi dalla lista della strega? Posso sì, dai. Ma cosa? devo fare spell resistance se ce l'ha. Non ce l'ho. Bene, allora devi fare tu 2 da 2 TS CD 24 Will. Aspetta, Will non è mind affecting questo. Ma qui. Scusa, non è mind affecting il Omen. No, no, il Omen non credo. Why no? Aspetta, adesso guardo. IC Prison però, perché è basato su Will, magari mind affecting. No, perché? Non lo so. No. Il Omen. Devi anche non no, ma mind affecting. Niente, okay. Cancella tutto. Però lo faccio lo stesso, dai, il ghiacciolo. Comunque. Via. CD 24. Cosa c'è l'ho? Sono Borsak. Tirato un bel tiro alto. E vabbè. Passato. Per una volta volevo ubriacarmi del Saber Sack. 18 tirato. Ah. Comunque non era facile superasse, eh. Fatto bene. Bene. Allora vado con Yankise. A 4 attacca 4 per affinità di numero. E 10 più 20 più 15. Scusa, più una roba del genere comunque. Ok. 3 dadi da 6. Qualcuno da 6? Sì. Offense 3 dadi 6 più 14. 8. Sono grazie, 8 più 14 22 più stun. CD 25. Non era Daz? Sì, Daz. No, stun. Passata. Ok. Vado con A1 sul 2. Quanti danni hai fatto, scusa? 22. Su chi stai facendo adesso? Con A1 sul numero 2. 12 più 20, più 15, 27. No, scusa, più 16, 28. Colpito di me. 6 più 4, 10 più 1, 11 più 14, 25. 25. Okay, quindi 25 danni. Che è tempra TS? Sì, TS tempra. Quanto era DC? 24. 25. 25, ok, questo è gazzato. Ah, bene. A, A2, no, solo per un round. Ah, A2 con, ah, contro il 3, 10 più 16, 26. Colpito, mi sa. e sono 10 più sminchia che tiro, 16 più ulteriori 16, 32. Ok. No, più ulteriori, scusa, 30. Sta andato anche questo. Bene. E stop. Ok. Ho fatto qualcosa, sì, familiar, ho fatto qualcosa, non può fare niente. Stop. Ok, io tocca a Eleni e scusa. Baka anche. Vai, vai. Tanto io sono 30 tiro per liberare. Vabbè, fai subito il tuo tiro, vedi se ti liberi, dai. Urca! 18 più... Secondo me non ce la fai comunque. Madonna. Cazzo, è più 22, 40. No, ma aspetta, sì, più 40 totale. Ah, preciso. No, forse no, 50. Non basta. No. 49, ah. Vabbè, è impossibile. Certo che fa 20. È forte. Infatti, è forte. Ricordati il prossimo round di fare il TS. Sì. Ma giusto. Posso fare il grido? Quello Type and Roll? O è una move action? Sì, l'ho preso anche come move action. Sì. No, quello c'hai. Perché puoi fare intimidire con una move action al massimo. Ma non puoi fare quella d'aria con una move action, mi pare. Quello con move action con questa. Comunque è entanglato, lo stesso. Prende un meno 2 a un po' di cose. Perché l'ICE, anche se fallisce. Aspetta, che ho il tangled esattamente cosa fa. Beh, comunque gli faccio un po' intimidire lo stesso. Meno 2 al tiro per colpire. Ah, meno 2 al tiro per colpire. Meno 4 alla destrezza. Quindi, quindi meno 2 alla CMT. Però comunque non basta. È vero, se lui è prono non prende dei bonus. No, no. Anche per. Non penso. Non mi pare proprio, Sicuramente prenderà meno 9, però sai. Ma che poi uno scorpione, ma come cacchio fa a essere prono? È zampetta in su, no? Sì, esatto, non si sa come mette i proiettili hanno fatto finire a gambe all'aria. Meno 4 le tiri per colpire, più 4 contro quelli alla distanza, che ne ricordavo giusto. Meno 4 contro... Niente, no. Boh. Ok, gli faccio un po' intimidire comunque... Normale, ok, contro di lui. Sì. Quindi 25 più 17. Aspetta che qua lo stiamo di solito vorresti andare un po' di almeno prendo almeno un po' di malus. Quant'è che hai fatto totale? Sono 35 e 7, 42. Sì. Da che? Vediamo. Sì, cazzo, tirando 18, 17, cioè. Ha scritto niente sullo schermo del master. Che 10 più l'HD, ah, è HD, non il CR. Mica qui è difficile in realtà. Comunque 10 più HD più la saggezza, quindi è 34 più 0. Quanto hai fatto? 40. Ok, è demoralizzato. Ma no, ma tanto è un mind affecting effect. Niente, non funziona quanto dico, mi spiace. Niente, l'ho intuito lo stesso. Non lo so, pensavo di usare Dimension Door. Sì, così questi qui vanno su sto qua. E tu vai dietro, giusto? Sì. Va bene, dai. E picchi. E picchio. Se vuoi. Ma per cozioni posso comunque usare. Non puoi fare più niente. Beh, ah no, sì, perché a meno che tu non abbia di Dimension Door. Cioè, che non puoi fare più niente. Ah, è vero. Se hai qualcosa di Swift, ti vuoi lanciare? No, proprio you can take no action. No, dopo. Ah, però dico, se vuoi fare più qualcosa prima. Ok, tocca a loro, no? Ah, io devo fare il TS? La Slinger ha fatto. No, devi farlo nel tuo round. Giusto. Quindi farlo adesso? No, nel prossimo. Cioè, questo qua era okay, quello bonus. Di prima durante l'attacco. Penso sia così. Allora. Quelli per liberarsi. Giusto. Cioè, prima i piccolini. Allora, quelli per liberarsi tiro un po' no, di... No, potrebbero attaccare il mio anchilosauro a uno. No, cucciolo, allontanati. Esatto, vai via. No, scherzavo. Vai. Sono in 4, 5. Vai. 5. Poi decido di stare con la convenienza. Quello è normale. Di questi. C'è MD 27, no? Se mi fossi liberato, ti giuro che l'avrei massacrato questo scorpione. Mi cosa faccio? Gli faccio un full attack anche se è morto. Esatto. Gli faccio 5 critici di fila. Lui è fuffi. E fuffi l'ha no deciso adesso, chi è anchilosauro? Sì. È anche 7 era giusto? No, ah, perché il tuo amico 3 si liberano. No, ho tirato un po' di tiri alti, vai, disponili, botta, non te lo rimetto, possono attaccare nessuno, tutti circondati. Ma scusa, c'è lì questo bello anchilosauro qua. Ah, giusto, attacca un anchilosauro. Ma no, non tiri danni per l'anchilosauro, però non tiri danni. Okay. Quanti VFA? E te lo dico subito. Ne ha diversi. Aspetta. Dai, si muovono, attaccano anche loro. Il chilosauro 75 PF. Dai, allora lo attacco. Vai. 14 ha? 22. Comunque ne ha più di 75 perché anche Gwen mancato. E colpito. Uno lo colpisce col pungiglione. Comunque ha molto di più di 75 piatti. Deve fare un TS tempra. Ah. Di merda. Statistics. Si prende innanzitutto ben 7 danni. Ah. Aspetta che mi disegni. Fatti un segnale. Vabbè, dai. È la sopravvivenza di avanti. Dov'è? Non lo trovo. Ah, grazie. Anchise 28. Ok, quello grosso, siccome deve rialzarsi con una move action, no? Non lo fa. In teoria può anche farlo, mi pare. Prende un po' di mouse, ma può fare tutti gli attacchi. E lo uccide, definitivamente. L'istinto però, è alzarsi. Infatti, cioè, stupido. Però, non so, sei stupido, comunque lo ti ha combattere da terra, no? Non lo so se sei abbassato, cioè, non pensi, mi attaccheranno mentre mi alzo, pensi, mi rimetto come sono più terribile. Sì, ma lui è conciato male, quindi potrebbe lottare disperatamente adesso. Non ha tipo questa motivazione. Non lo so, a me sembra che si alzerebbe. Però non. Addio come doveva alzarsi, sì, in effetti. Tanto hai comunque il coming. Ah, niente, scusa, sei grappato. Esatto. Purtroppo il coming out non va sul grappolo. Mi dispiace. Tanto sul mio libro. Se mi libro. Beh, comunque fa un attacco solo, anche se. Perché? Ah no, è vero, si sta giù giusto. Fa du. C'ha un bel meno 4 più i malus del prono, però lui non c'ha CA. E poi grapplato. Io ho 22 di CA. Cioè, beh, lui CA. Se sta giù lo rilascia dal grapple, no? Perché sennò dovrebbe mantenere l'operazione standard. No, non ho capito. E lo rigrabba. Cioè, deve lasciare. Però fai il coming at, giusto? In questo modo. Io lo faccio qua. Beh, diciamo che lui comunque fa la cosa più logica, cioè. Nel senso più logica, quello che mi sembra anche l'istinto, cioè stai morendo, non pensi a rialzarti, pensi a menar giù, cioè basta. Quindi rilascia il grapple con la free action e ti attacca. Fai il come and get me. Uno. No! Simone, mi piace. Purtroppo ha finito le cartucce. Che sfiga. Però c'è vicino anche una che si è trasportata lì. Quindi. Ah, è vero. E gli anchise che sono grossi. Mm? Che sono più grossi del puntino, cioè, però gli anchise boh, non sanno come. E tu me li hai fatto malissimo, tra l'altro. Quindi, hai fatto solo un colpo. Esatto. Che non ci arrivavano ad attaccare il fatto. Ah, no, vero, ce ne ho fatto solo uno. Quindi diciamo che inizia ad attaccare quell'iro. Oddio, potrebbe anche fuggire, in effetti, perché c'è un mio istinto di sopravvivenza. Sì. Mi sa che. Però no, ho detto che non si rialzava, giusto? Hai detto così. Allora. Puoi farlo rialzare e fuggire se vuoi. Sì, mi sa che si alza e scappa perché cioè non sta a morire, non sa che morirebbe. No, prendete anche l'opportunità da lei e dall'anchise, giusto? Ci prova lo stesso. Da me? Fare. Perché da me? Cioè, sa che restando lì, no, capisce che restando lì morirebbe di sicuro. Potrebbe al massimo portare qualcuno con sé, ma cioè, muore comunque, no? Certo, certo. È tipo a 20 PF per quello, no? Tacchi d'opportunità da anchise, dai. Vabbè. Ok, vai. A te l'onore. Poverino, ma io non avevo un'abilità, cioè avevo tipo una free action che mi aggiungeva altri bonus. No, lo vogliamo sgozzare, eh? Non avevo una free action che aggiungeva altri bonus. Ne avevo una che era più 20 al tiro per colpire, poi ne avevo un'altra che avevo usato l'altra volta che era tipo più 2. Ma dovevi, non lo so. Per colpire dice Arcane Strike. Sì, è critico per c'ha lei anche. Quando fa un colpo critico può decidere insomma. Non sta dicendo quello, lei sta dicendo Arcane Strike. Che fa una swift action e più 2 danni al prossimo turno. Sì, però lo devi fare prima. Ah, ok, vero. Quello fa l'inizio del gatto. Comunque buona idea, perché poteva essere. Non l'ho preso. Però non lo so. Cioè, guarda che c'è un sacco di malus, eh. Vabbè, un sacco no, però è intanglato. Scusa. Come meno 2. Ma non dà malus diretti alla CA, solo la destrezza? Ho fatto 11, no, queste sono cadute, eh? 14 più 5, 19. Ma l'ho preso. Mancato. Ah, 20. C'è 20, ancora Anchise? 20. Ah, fiancheggia! 20. Mancato. Più 2, c'è Anchise. Mancato. Anchise che somma 18. Era mancato? Sì. Beh, era forte questo, eh. Non so se avete capito, ma. Sì. Che c'è che è? 13 più 18 15 13 più, questi non contano. 13 più 18. Sì, esatto, non contano. L'ho colpito, credo, perché ho fatto 31. Sì, ho colpito, 30 colpisce. Vado. 31? Sì, colpito. Anche vai, perché ha una mano sulla CA lui. Perfetto, 14 più un 3 dadi a 6. Dai, non può ucciderlo l'anchisa, affanculo. Cazzo, per un pelo. Perché ho fatto tipo, cos'è, 5 più... 19 danni ho fatto. Beh, non è che ne ha proprio 20 adesso. Vai, per dire. Vediamo qua come è messo. Se mi ha lasciato del culo. Falla comunque sta pro se non è immune a stun. Io lo rincorro. Ah, giusto. Rincorro. Rincorro. La passa ampiamente la copiata di. Ok. Si stanca. Mm? Si stanca. Non ho avuto un po' di mal di testa. Avrà pochissimi, pochissimi PF. Gli dico il fare, giù. Che gli occhi rossi. Ma senti, ma questo anchise qui non gli può fare l'attacco d'opportunità? No, okay. Perché è basso. Perché cover? Ah. È molto leggero, bro. Ha due quadrati di 10. Ah, davvero? Io voglio fare l'attacco d'opportunità. Perché lui ha space 15, reach 15. Ah, huge. Ah, però sì. Cioè, ma non ha, dico, a cover. No, a cover. Ecco, quindi proprio non lo può fare, non è che ha una mission. Ma può farlo, ah. Con 25. Allora lo fa. Ah, un più 4. E anche l'altro, allora? Beh, no. Beh, sì, invece sì. È mezzo, anche se è mezzo lungo. 8 mancato. Ce ne sono i quadretti lì, per cui posso okay. A 2. Aspetta un attimo che devo fare il calcolo. Mancati. Mancati. 6 e 8 tirato. Sì, no, ma infatti comunque moriva con quel colpo. Sì, ti voleva 6 PF. Cioè, è morto con Anchise? Sì. Grande Anchise. È tutto già mal ridotto per via di colpi di pistola negli occhi, robe del genere. No. Si rialza, cerca fatica di tirare. Mi arriva una codata in testa dall'anchilosauro. Bellissimo. E si accascia a terra svenuto. Bravo. Non è proprio morto morto. Vedi Sodoma, impara da lui. Quindi è morto? È svenuto. Perché è a meno costituzione. Cioè non è proprio a meno di meno costituzione. Quindi Fuffi l'ha ucciso. Adesso però sono ancora gli altretti. Ti tocca? A loro? No. Tocca a te. Ti tocca a loro. Tocca anche agli altri quelli là. Quelli là che non ho ancora fatto. Ma sono stannati quei due lì. Ah già, è vero, due sono stannati. Ah, questo due dovevano fare il tiro salvezza. Altri scorpioni, degli altri scorpioni riusciti a liberarli senza difficoltà, senza sprecare risorse. Come giusto che devo fare, non aggiungo niente al CR. Non devo fare i tiri io. Sì, tu fai. Comunque li fai. Ne faccio. E fai i 103 round. Due round, perché. Cioè, vanno giù con due colpi questi. Ah, perché tu c'hai il veleno. Sono più raddoppiati, vanno giù anche. Tu li uccidi con un colpo, tranquillo proprio. Che figo. Loro con due, no. Anche con uno in se fanno dei bollettini. Oh! Dai, quello non conta. Peccato, non conta. Quindi fai che ci mettete tre round massimo. Tipo tre di 20? Di insieme. Ma senza tirare il primo, poi il secondo. Sì, giusto, se lo fa. Superato. Superato. 20. Cazzo. Non l'ho superato. Quindi aspetta i danni. Vai. Allora, questo forza. Due danni alla forza. Madonna. Aspetta che se li segna. Mi sento tra l'altro. Segnati, ok. Dove c'è la costituzione? Ma la costituzione? No, destrezza. Ah. 4. Giulio, non ci sono lì. Tira un di 6. No, tira un di 4. Ah, ok. E 4 la costituzione. Allora, io ho 40 PF, aspetta. No, non dovresti morire comunque. Eh no, perché ho meno 6 la costituzione. Vabbè, ma hai già contato il meno 2 di prima, no? No. Sei un coglione, allora. Comunque, 6 per... 3 per 12. 36. Ah, sei morto. Sono down adesso. Cioè, se muori, eh. Lo so. Ho 4 PF. Però potevi curarti nel frattempo, comunque, se andavi a... Questo è il secondo... Col Bralani, tipo non lo so. Ma il Bralani, sì, potevo fare uno spell apposta. È vero. Ho 4 PF in toga adesso. Perché no. Infatti, perché è morto? Ah, giusto, sì, a 4. Infatti. Ho 4 PF. Giusto. Quello dicevo, non capivo. Ah, ok. Però se esci da lì non muori. Cazzo! Sta rimanendo cambiato! Esatto. Insultatemi, ok. E devo fare adesso lo spell l'ultimo. Aspetta, voi volete fare qualcosa, vedendo che lui praticamente ha 4 PF, se fallisce un TS ci dici. Sì, sì, sì, aspetta solo un secondo. Io ho una cosa da fare. Che si secondi. Chiama. Si chiama fare un bel. Ah, cazzo, però no. Scusami. Perché lui, su lui il rage non ha effetto, che gli dà PF temporaneo, ma su lui no, perché è già in rage. Scusami se. Però io lo sposto da lì e basta. Cioè, per adesso lo sposto. No, è un problema. Non serve a niente, perché tanto è un TS che deve fare da un veleno che è in corpo. Tra l'altro il veleno. Aspetta, quanti round è? 4. Che dura al massimo 6 round. Cioè, non lo sai. Beh, tanto il prossimo round 2 mo. Vabbè, io posso fare. Posso evocare un Bralani. Che lo cura. Ok. Quindi? Quando toccherà me lo farò. Vai adesso. Ah, tocca a me. Sì, perché avete... tipo nel primo turno l'hai evocato. Agiscono prima gli Yankees e poi li dismisso. Certo. Ah, però non parlo, appare al prossimo turno, che palle. Potrebbe essere già morto lui. Beh, no, perché lui agisce. No, io ho fatto il primo che l'ho superato, scusami. Io ho fatto il primo TS che l'ho superato. Tu in quel momento hai evocato il Bralani. No, e perché se... tu agisci dopo. Infatti lui agisce dopo di me. Questo, tutto questo sta succedendo dopo, no? E ho capito, ma se tu inizi a evocare comunque dopo che lui ha fatto il tiro, per forza inizi dopo. Lui, ha, lui no, lo fa allora, prima. Lui ritarda l'azione, ma non penso ritardi anche il veleno se ritardi l'azione. Scusa, cioè. Lui agisce dopo di me, no? Sì. Non ho capito perché adesso abbiamo fatto tutte queste cose. Cioè, doveva toccare prima a me. Sì. Sì, sì. Ecco. Io, sì. Tu prima io nel mio turno comincio a evocare. Ok. Che lo vedo messo male, no? E io faccio il TS. E poi al prossimo round. Il secondo lo fa. Sembra credibile. Ma tipo Restoration, magari questi qua. No. Non lo so. No. Chi che c'era? C'era un aiuto Restoration. Non mi ricordo. Ho idea. Se c'ho qualcosa di appetibile, ma non mi pare. Io non mi ricordo, ma non mi sembra a me. No. Ma se vuoi ti sono i danni al veleno. Non hai un bonus contro i veleni. C'era quello immune ai veleni, però c'è detto, ma. Beh, c'è. Perché mai dovevi prendere uno che è immune ai veleni come Rage Power? Ecco perché. Perché fanno un D4 alla forza di resistenza e alla destrezza. No, perché vanno così concatenati, cioè non è che c'è di fare. Ma comunque Bralani non è una cattiva idea. Beh, quanti PF mi può curare, Guarani? Boh, ti cura tipo 2 dadi 8 più 6, non è tanto, ma non è neanche malissimo. Beh, non è di niente. 2 dadi 8 più 6. Sì, però devi dire un 4 sul dado ancora. È vero, sì. Posso... Devo tirare io anche meno di 15. Non so quanto sommi. Beh, adesso sommi molto meno adesso, eh. Esatto. Dai la costruzione. Eh sì. Sommi meno 3 rispetto a soglia, c'è danni a costruzione. Quindi sono 11. Ma scusa, lei con... Devi fare... 20? Ho pensato anch'io a Fly. 18. No, 18. Con... Lei con Dimension Door può portare qualcuno insieme? Sì. Posso spostarlo. E Max si sposta, il veleno effetto comunque, cioè non è... Certo, no, no, sposta da te Corinne. Ah, cioè lo porta a curare? O porta lui a curare da lei o porta lei qua. Beh, è più facile portare lui, no? Perché non devi andare e tornare. Sì, con ma la cieca è Shake. Che Shelk lo uccide? No, no, è che se Shelk... la vede curare capisce. Quindi è meglio che sposto lei da noi. Però ci sta guardando che Shelk. Sì, è vero. Lei ha patteggiato che vi curava. Cioè, okay, però ma... loro non hanno patteggiato niente. Fatti. Esatto, ha parlato con te. Vabbè, ma io... Comunque nel caso chiedilo a me, scusami, perché io mi se... muovo, mi teletrasporto quanto voglio. Lei invece lo può fare una volta. Oh, una domanda. Ma il punto è che se tu porti lui... Kashyyyk lo vede. Se tu porti lei, Kashyyyk lo vede. No, scusami, se invece io. Cioè, qualcuno ha tipo. Ma poi ci passano due round, scusami, almeno se, prima che vado. Se lui il la turno. Teletrasporta e io gli faccio invisibility. Lui comunque passano due round ora che va torna, quindi il problema non si pone. Perché a quel punto vedi ormai. Perché sono morto, probabilmente. Devo fare 18? Devi fare veramente 18? Eh sì, perché hai danni. Un po' di malus. No. Scelti a me. Non è facile tirare un 18. Non è una vera sessione se il barbaro non rischia di morire. Cosa facciamo? Puoi evocare più Bralani? No, perché non hai preparato più. No, perché io buildo a gota. Non posso, non... Perché no? Perché Summon Monster 6 ce n'è uno solo, anzi fammelo togliere. Cioè ne ho preparato solo uno. Magari c'è qualcos'altro che cura. Però no, non credo. Aspetta, io avevo preso un'abilità che però non so se funziona. Cioè no, se l'avevo poi presa, non mi ricordo cosa mi avevi detto. Che era tra le possibilità di scelta tra le abilità della Genasi. Però alcuni erano contro la le mie caratteristiche da Magus. Quindi avevo preso una che non mi ricordo e quella più potenziativa. Sì, quella lì. Più 2 o più 4. Più 4 iniziativa. Più 4 e se è no... 5 qualcosa. Esatto. E se no, e poi ero indecisa tra due che non mi ricordo se era più 2 a guarire Oppure era più 2 a... Qua sto guardando lì, cioè... non so quanto tempo richieda questo Threat Poison, ma se uno ha alto IAL può fare una prova di IAL. No. Ma nessuno ha alto IAL. Che deve fare contro la DC del veleno, che è un po' difficile. IAL che cos'è che somma? Saggezza. Ma non c'è. Io non hai dato grado, sì, ma devi fare tipo 40 sul dato, cioè. Ah, 3 dadi da 8 più 6 curano i bralani. Beh, non è male comunque. Castle level 6 sono bralani. E mi pare di sì. Adesso controllo, ma okay, mi pareva proprio di sì. Eh sì, castle level 6. 3 di 8 più 6. È l'unione che fa la forza. Che cura 500 danni con... in 2 round. No, in 10. Beh, però 3 di 8 più 6 mi prende... 3 di 8 quant'è la media? 4,5, 9, 13,5, 13, più 6, sì, è più di 12. Boh, secondo me può starci, cioè, fallirà, però io devo tirare alto sul dato da 4. Devo tirare 3. Tiro? 3 o più. 50-50. Ma 50 in effetti, un po' meno che c'è il 18. Perché Anchise non, gli Anchise non curano? Non fanno cure Sirius. Cure Sirius Wounds. Lo vuoi tirare con questo, male? No, no. Un dato vale l'altro. Mi sembra la soluzione migliore. No, non c'hai la roba tipo l'orco che resti in piedi senza... No, se quella è un'abilità di razza. Non ce l'ha purtroppo. Argoth ce l'aveva. Argoth ce l'aveva. Infatti. Così sacrificavi tipo un PF e questa rimaneva in piedi anche con zero. Sarebbe dato per uscire dall'ira. Certo. Se uso un punto. Cioè, lui tra 6 PF esce dall'ira, giusto? No, no, 4 PF sono morto perché sono a 0. Appunto, esce dall'ira e muore. Sì. Perché perdi PF temporanei. Cioè, io in ira posso rimanere 27 round. Tu hai preso i PF della scheda, cioè quella Rage quando l'hai fatto. Sì, sì. Eh sì, ma sono 143 alla fine, non è che siano. Sono 286 raddoppiati. Inica. Io con la riserva arcana non posso aiutarlo in niente. Cazzo facciamo? E fai la cura lì e poi si tira il dado. Ma c'è già stato un 50-50 con Teo, Cioè, nel senso, proprio un'altra possibilità. Non vedo molte opzioni, cioè. Lira ti dà un bonus alla costituzione? Sì, più 6. Tesesco, la lira sono morto perché almeno 6 che ho di costituzione è... Non so, esatto, dargli qualcosa che gli dà un bonus alla costituzione. Tipo, tu non puoi castargli tipo... Bull, cosa lì, non ce l'ho. Che cazzo possiamo fare? Qualche altra invocazione? Magari a Restoration. Boh. Non credo. Sì, accetti tutto, buona nonna. Vediamo. Lo sai bene, se no no. Guardo, do un'occhiata velocissima a quello di quinto. Ma un peso. No, le scorro solo. Se lo sapresti. Sì, infatti, babau, non credo i demoni, no, bralani, no, niente. No, no. A te serve se no qualcosa. Magari ti 18 più, che sai. Questo problema per me. Mi sa che sì, dobbiamo 15% fare... 15% alla fine, non è poco, dai. Aspetta, solo un'ultima cosa. Non è qualcosa che poi tipo di fa... Ho tirato un 4. Aspetta, aspetta. Stai fermo. Ho tirato un 2. No. 1. L'1, teniamo l'1. Oddio. Oh, no. 2. Ehi, secondo me sono tutti quelli bassi, Dai. 2. Ci diverta torturarci. Dai, qua veloci che ci stiamo impantanando. Siamo con i bralani. Che cosa vi devo dire, ragazzi? Quanti PF mi curi? E vediamo. Sarà al prossimo round si scoprirà. Adesso faccio girare gli Anchise e poi li dismisso. Giusto, posso, no? Vabbè, facciamo girare gli Anchise. Ma a parte che se evochi si tolgono automaticamente. Appunto. Sì, vabbè, dismisso. Sarebbe una standard action. Ah, quello dico. Ok. Allora non posso far niente perché il tuo problema è dentro di te. A 4 attacca 4. 16. Ma lascia stare, quelli lì scappano, li ammazzate. Ok, ok. Poi contro il primo turno. Allora bralani. Però ecco, è il secondo turno. Io ho fallito il secondo TS, giusto? Momento. Quindi ho fatto Pier. Dai, cura hai visti Pier. Ah, proprio siamo già direttamente sì, al turno successivo. Sì, tu. Minchia, che ansia. Cos'è che ti chiedi? Non c'è qualche bonus. Più di 12. Non posso dargli qualche bonus ITS tipo guidance? Non ce l'ho, non l'ho preparato. No, qualcosa che da bonus non ce l'hai. Tu, non mi ricordo tutti i. Ce l'ho, ma le cose però si basano sull'ira e lui non è affetto. Cioè l'incantesimo rage. No. TBF perdi se vai fuori da lì un sacco. Ne ho 107. 107 ne ho. 3 per 12, tipo una 40, sì, molissimo. Sono se, ho 143 PF in Iga, ne ho 107 quando sono fuori da Liga. Beh, Davide, non me la prendo con te se fai un tiro basso, cioè. No, non è colpa mia, infatti. E niente, se io sti 3 di 8. Mi fanno almeno 6 sui di 8. Per dargli il 50% di vita? Sì. Se no, molto meno. No! Non male! Vabbè, dai, non è così difficile, cioè. Niente, hai fatto, non ti vergogni. Ti ho detto che non era tutto colpa tua, ma almeno impegnati un minimo. Aspetta che mi aggiungo questi DGPF. Adesso cosa deve fare? Cioè, poverino! Ha 14 PF. Ah no, comunque va bene, perché ne ha ancora 4 lui. Sì. Quindi va bene comunque. Devi farne almeno 8. Cioè devi fare. Sì, dai, era qualsiasi tiro andava bene, effetti, dai. Io lo faccio 18. Però minchia, comunque 50-50. Hai lo faccio 50-50. Come 50-50? 50-50 sopravvive. Un po' di più perché c'è un 15%. Vabbè, più il tiro salvezza, che contiamo già per fallito, ovviamente. Sì, uno proprio. Minchia, sei abbonata in uno oggi, 2-1 cattivi, cioè, nel momento sbagliato. E vediamo sto dado che si tira. Ah, io preparo la grotta, avviso, eh. Sta attento, Lo devo fare. 12 BF, beh, 14 ne ho. 14, ah, quindi se faccio 2 danni va bene. Tipo, sì, come hanno detto, 3, dal 3 in su non va bene. Minimo esce da 3. Cazzo, questo lo di Danilo, proprio non lo dico. No, allora che ci sta sperando? Cosa, avere Agoroth? Mica tanto. 2. Bene. Aspetta. Quindi quanti PF mi rimangono? Boh, 0. Comunque no, 2 PF? C'è il tiro dopo però, eh. Mica finito il vero. Certo. Quindi però 2 PF. E adesso quanto lo fai sul dado però? Perché se basta ancora? 19. Vado col Bravani? Sì, vai col Bravani. Ma sei morto allora comunque. Adesso anche se sei stanno su per sei morto. Secondo me sì. Quanti PF hai fatto? 4? 5 con questo. Ma perché sei morto se non lo superi? Perché ho un PF, ho 2 PF e ho tipo di costituzione. Ah no, non è vero, ogni volta è così. Ogni volta è 50-50. Di costituzione? Aspetta, adesso hai fatto 2 danni? Io ho meno 8. Non volete tipo chiamare Cogliino, roba del genere? Io l'ho detto, raga. A questo punto. Ma ci mette round, cioè, ci mette troppo tempo, è tutto in un round. Ho capito, ma tipo magari se fatti un round prima, il round prossimo arrivo, non deve fare un altro 50 kg. Io comunque ho 10 di costruzione. Ma non finisce il veleno al prossimo round? Sì, io ho 10 costruzioni. No, tra 5 round. Cioè, no, 6. E allora è morto, perché no. I Bralani hanno 2 cure. Aspetta. No, sono 6, caro, quindi 5 sono passati. Questo no, è il 6. Sì, Cosa 5? Ho fatto 3 TS. E il primo che ho fatto... Hai fatto 3 TS per ora. E no, è anche il primo che ho fatto, il primo turno. Quindi 4, quindi io sono altri 2. Ah, sì. Con questo, no, io pensavo che questo fosse l'ultimo. E poi comunque, scusami, io ho 18 di costruzione. Meno 8 vado a 10. Ho 10 di costruzione adesso. Ma se io vado per nella... Allora facciamo che intanto sono andato a chiamare Corina, almeno glielo chiedo. Tanto che guardate da soli. Ma io... Ma tu non lo sai, non fai più niente. Se decidi di dirmelo, tu non so se lo... O glielo dico o se faccio più veloce volando vado io. Tu sai che io sono il mago e il mago si sposta velocemente. No, siamo al quadro comunque. Capito, ma io mi sposto tipo di 700 piedi in un round, ah, con la mia abilità. Scusami, se ti faccio Dimension Door così ci vedo subito e fa niente. Ma io ce l'ho già. Ah, ok, vero. Io glielo dico. Gli dico di mantenere il segreto e tutto. Ma il punto è... Se Kai Shek comunque vede una persona che guarisce e basta. Infatti, che cosa ne deduce? Ne deduce dopo qualcosa curare poco, perché no? È un curare. Oddio, che Shaq sta osservando la battaglia. Diciamo che non è che resta comunque fastidio a vedere i suoi uomini morire. Cioè, nel caso. In effetti, Kaiser poteva anche muovere il culo, magari. Sei già informato se qualcuno poteva curarmi, ovviamente Corinne non l'ha detto. Io mi posso muovere di 72 piedi. E allora vado io a prenderla. Ma scusa, lei ha modo particolare delle cantrici di curare, no? È vero. Adesso c'è qualcun altro che sa curare, forse è un cannibale. Oh, ma siamo distanti dalla barca. No, non sa curare. Io non so se tu vuoi essere un cannibale. Lei è una cantrice, ma ha modo particolare di curare, no? Quindi è. Ah, sì. E che cazzo. Miei. E se è un fatto disperato o... Allora tu hai solo morirò una per dimension lei, d'oro, che devo dire. Quello che tu una o due lui, comunque. Il round prima, allora lei cosa fa? Viene da me, mi fa dimension d'oro, insieme andiamo a chiamare qualcuno che curi. Se che vuole Corin si fa avanti. Ma senza garanzia, cioè boh. Magari. Ma perché io non capisco, ma questa qui che sa curare tantissimo, non può curarlo poco. No, è il modo, è il modo di curare. Beh, la mica vede il modo con cui mi cuga. È particolare. Diciamo che è un effetto di musica bardica, quindi sì. Diciamo che lui le inseguiva. È quello il punto, perché io lo odio. Non c'è nessun altro che sa curare. Cazzo, una mia missione. E io non mi ricordo se ho preso quell'abilità che dà più 2 a Ila. Dai, non me lo ricordo se ho preso quella o l'altra. No, te hai preso più 4 a coso. Hai preso più 4 iniziativa. Avevo quello e poi ne avevo un'altra. Hai preso il più 4 iniziativa anziché il più 2 a Ila. Direi che hai fatto bene. No, poi ne avevo un'altra, ma non so se ho preso quella oppure quella per resistere. Ma se tipo porti lei, non so. Cioè. Ma secondo te, io mi posso muovere di 72 piedi, non come la dimension d'oro. Quindi se lei viene da me, mi porta lì, poi non può tornare lei perché ha solo una dimension d'oro, non è più di una. E mi servono 2 o 3, non mi ricordo quanti ne ho spellati, quindi uno l'ho usato. No, ma tu li devi preparare alla mattina, no? Ma li ho sempre segnati. Cioè, lei c'era senso di giocare. Capito, così. Ma ne hai preparato più di uno? Sì, perché siccome non riuscivo a imparare tutti gli incantesimi, allora è un po' allora puoi farlo tutto. Allora puoi fare tutto tu. Puoi andarla a prendere e tornare indietro. Quelli più forti tipo... io pensavo ne avessi solo uno, scusa. Devi dire che questo è il momento buono per parlare loro di questa cosa, c'è questa tizia che cura, no? Ma io gliel'ho detto. Io condivido l'informazione, ma il punto è... Se Kaishak vede il modo particolare in cui lei cura... Ma la domanda è che cazzo gliene frega ancora Kaishak che non lavora più per l'impero di strucidare sti qua? Ma infatti è una buona domanda questo. Ma che vada a picchiare, così che avere una curatrice babava che assicura il successo della missione. Però lei mi ha chiesto. Lei ti ha detto una roba del tipo. Magari tu le hai fatto una domanda del genere. E ha detto una roba del tipo. Un generale dell'impero resta sempre un generale dell'impero. Ed è quello che penso anch'io. Per questo dico che lui potrebbe riconoscerla. Perché è uno stronzo di merda, secondo me. Nel caso, visto che il tuo grande signore padrone. Dico a Avram. Sì. Sì, esatto, cioè io sono lì che ho sputato da lei che se questi stanno facendo nel caso Kaishak voglia attaccare la nostra curatrice e salvatrice. Ricordo la salvatrice. Cazzo, è solo sua salvatrice, cioè. Lui non gliene frega niente, pure le gare malvagie. Cazzo me ne frega di lui, cioè. Ok, allora io sono neutrale malvagio. Ti dirò lei che è brava, che no è brava, però è più neutrale. Neutrale io sono caotico malvagio. Tanto è lei che deve andare a prenderla. Siamo tutti cattivoni qua. Ah, perché tu lo vuoi sapere perché noi vediamo. Ma anche Kaishak vede. Infatti lo vede anche Kaishak. No, però forse vuole sapere se noi ci schieriamo con lei. Sì, no, le vuole sapere. Sicuramente no, mi dispiace, ma no. Neanche io mi schiererei con... Tu vuoi mentire, sei neutrale malvagio, non ti frega un cazzo. Poi le si schiera con te, poi non è vero. Figo. Per con chi? Con Corinne? Sì. Col cazzo, certo che mi schiero con lei, scusa, è stata la mia missione. Il punto è che se mi schiero solo io, mi fa fuori che c'è. Ma anche se ci schierano tutte e quattro, mi faccio fuori. Non io penso che il mio personaggio si schiera. Temo che non è cattivo. Sì, ha fatto fuori uno scorpione. Cioè, è caotica, ma non è cattiva. Esatto. E... Non ci ha fatto fuori uno scorpione, sono arrivato un critico di merda. No. E è l'unica opzione che abbiamo, perché non penso che ne abbiamo un'altra, no? A me sembra che ci stia, anche senza dire niente, cioè, le dici che... Hai bisogno del suo servizio, quello che ti ha offerto. Esatto. del vantaggio che ti ho offerto. Mi è venuta in mente una cosa geniale. Se tu usi un Dimension Door, però, per forza, lui è teletrasporto. È quello che hai. Io ho preso uno di quelli che fanno vedere le cose a tutti. Beh, a questo punto, piuttosto che trasportare Corinne, cioè, da voi, portate lui e basta. Cioè, se mi portate sulla nave, ci sarà qualcuno che penserà che sta muovendo. Semplicemente, appunto, prendete lui e portatelo là. Ma a questo punto, portate il prendete lui e portatelo là. Un'azione sola, ci vorranno solo. Cioè, qualcuno lo prenda, lo porta. Ah, è vero, giusto. Lo porti tu. Chiedo io, dico a te. Quello come vuoi, possiamo farlo. Io dico a te, portalo tu. Di cercare Corinne in maniera discreta, fare in fretta perché il veleno sta in effetto. Ti porto io, cosa devo fare? Niente. Ti porto io. Sì, ma quindi questo è già il secondo round? Sì, dai, riuscite a farlo, siamo lì a pensare a quanti round era. Ok. Sì, okay. Dai, l'ho fatto, l'ho portato e sono andato a cercare Corin. Cosa devi fare? Lo agguanta. Devo fare ancora... No. No, va, fa un heal, cioè recuperi 50 PF, cioè sì, devi farlo, ma... di più 50 sì. E 50 di... PF no, ma aspetta, di più caster level 10 caster level. Caster level per 10, quindi 120 minchia più... cos'è 50? No, aspetta, 50. Scusa, 100 tipo 100 100 ce l'ho qua, non voglio vedere. 102 in tutto ne ho, qua sono ancora in ira. Non sto lasciando lì, cioè sono ancora in ira, sennò quindi ne torniamo là. C'è mancato un pelo, devo fare un altro, non muori più anche se ci dà lì. E no, ma per andare in negativo costituzione. Ma va. Sì. Quanto hai di costituzione? La madonna, rischi di andare in negativo la costituzione, cosa dici? Cioè, ho 8 danni. No, ho 10 alla costituzione adesso, eh. Sì, ho capito, ma cioè subire altri, se subisci altri 8, cioè è una cosa impossibile. Ma quindi io lo riporto. No, tu lo porti in no, lo porto da quello. No, io comunque non riesco ad andare lì e perdi il più 6. Quanto hai di costituzione normale? Aveva non tantissimo. Notate, avevi solo 6 di 18. Mira. Direi che poco. Costruzione 12. 12 e quindi hai 6 di costituzione adesso, se sei normale. Sì. Col cazzo che faccio. Sto sempre incazzato. Questo è il mio segreto. Io sono sempre arrabbiato. Ma io poi non lo devo ripetere. Fai il TS intanto. 10. Non ce l'ha il curatore, qualcosa per i danni alle abilità? Sì, sì, ce l'ha. Vada. Ma quindi ce l'hai, vedi, questo qua. Dicevo. Cioè, una roba più discreta. Ancora con sì, ma lo fa attraverso il canto, diciamo. Ah, è comunque basato su quello. Quanti danni? Cioè, in realtà mi pare che sia... No, in realtà è tipo... Se ricordo bene, adesso mi ricordo bene. Tipo, lei fa un canto e ti recuperi tipo... 50, tipo 25-50 PF round, tipo per un sacco di round, cioè funziona così. Fighissimo. Però non è quello che sto usando adesso. Guarda un attimo. Cioè ho meno 6 la forza, meno 6 istruzione, meno 6 la destrezza. Sono tipo Hercules, è presente quando ha dei farpatti che ha la forza. Esatto, uguale. Sì, sì, bellissimo, proprio lì. Sì, uguale. Similitudine perfetta. Mi ha spento i capelli. No, esatto, mi ha spento i capelli. No. Allora, mi sa che io sono madre, perché ho capelli di fuoco. Le sessioni ormai sono così. Un'ora di battaglia e 2 ore per salvare la vita. Vabbè, l'altra volta era per me, dai. Per... Sì, anche per me. Però anche per lui, Sì, sì. No, tu sempre. Vabbè, io sei fisso, poi altre vuote. Cioè, lei recupera 55 PF ogni round, so fare questa cosa. A tutto il gruppo. A tutto il gruppo? Minchia. Ma possiamo partire dal prossimo combattimento? Come cazzo fa? Una figata. Però devo usare dei spell, cioè non è che farlo costantemente. Cioè. Certo, però. Ah, ma non è Twill, peccato. In pratica c'è una speciale musica bardica che fa... In pratica puoi spendere tipo 5 round per dare fast regeneration, 5, no? Mm-hmm. E per ogni 5 round che spendi... Cioè no, scusa, devi spendere un round, per ogni round che spendi prendere regeneration 5. Puoi spendere fino a massimo di 5, una roba del genere, no? Lei può spendere... Cioè, ne spende così tanti perché usa un incantesimo che in pratica li spende al posto suo, anziché... Cioè, c'è un incantesimo da bardo che usa... Che usa lui round al posto del bard e quindi non li spreca lei, li spreca l'incantesimo. No? E in pratica fa sta cosa. Bellissimo. E poi c'è una roba. Boh, non mi ricordo come avevo fatto, c'era un talento che faceva recuperare altri 10 PF in più extra. Madonna. Non lo so, ho scritto qua, non mi ricordo. No, ma se fai te ho scritto l'effetto: 55 PF a tutto il gruppo. Così fai 5, cioè tutti assieme. E cioè lei usa 5 round di musica bardica e recupera 55 PF. Sì, ho capito. Ah, fa questo. Quindi lo fa adesso. Sì. Inizia a cantare. In teoria avevo pensato che sarebbe successo dopo questa cosa. Avrei dovuto cercare una canzone da mettere. Ah, ma l'ho anche trovato su Spotify alla fine. Vabbè, la faccio ascoltare la prossima volta. Ok, comunque. Okay. All'inizio di Poemia del Signore degli Anelli. Sì, esatto. Oppure l'inizio di Bar Song dei Blind Guardian, insomma. E anche voi vi sentite tutti ristorati, no? Cioè, vi recuperate anche voi i BF ed avevate messo praticamente. Adesso sono i BF. Sì, infatti, scusate. Infatti. Ok, mentre canta, visto che è una fianco, mantenere, no, giusto? Usa. C'è un restoration per la. Se non ce l'ha, direi che ce l'ha, perché non ha senso che non c'è. Sì, non glielo ho messo, ma direi che c'è, cioè, in qualche modo ce l'ha sicuramente. Usa un restoration. Quant'è che recuperava? Tipo 2 danni, una roba del genere. Non è andato a 4, posso guardare. 20 a un 4, ma l'esser o normale? È l'esser per forza. Pazzettino, sì. Restoration l'esser. Comunque non c'è la mago, sai? Restoration. Ma non è un mago. No, dicevo per me. Guarda, c'è la barba. Non da 4. Ma c'è la barba. Ah, no. C'è la paladina. Allora non ce l'ha. Non è peccato un Sansara, ma potrebbe avere una bacchetta comunque. O il suo ordine conferisce particolari capacità, One of the spells ability. Da 4 of temporary ability damage, però non era drain magari. No, non era damage. Veleno. Non mi ha risposto magari. Però domani all'8 lo vedo, quindi si può venire qui. Aspetta, c'è una cosa carina. Vabbè, al massimo c'è una bacchetta. Sì. Dai, recuperiamo sti PF. Cioè sti danni. Veniti a un 4, eh. 4. Bravo. Simbolo. Positivo. Hai visto che è servito il 4? Beh, meno male. Questa è la paura che ti gioco a Groot, in realtà. Non è la buona vita del personaggio. Gli farò un primo TS, no? Però beh, ormai sei salvo, penso. Quanto ho? Scusami, ho solo meno 2. Ma quindi forse adesso c'è 16 e 14, 30. Hai tirato 14? Sì, 14. Come cosa? C'ho 15, se non sbaglio. No, c'è 14 normale con tutto il malo costruzione che hai, c'hai meno, quindi l'hai fallito. No, sono in Nira. Perché 14 in Nira. Ho 16 in Nira adesso, perché ho 18. Perché lì era più 6 la costruzione. Ah, sì, forse era un altro. Boh. Ho 14. Ma guarda che l'ho scritto sulla scheda. Sì, sì. C'è scritto 16. C'è scritto 18 costruzione. No, guarda il tiro salvezza, c'è scritto. Ah, scusami. Fortitude 14. Allora. Ah, sì, sì, no, allora no. 28. Ah, no, scusa, pensavo fosse la costruzione. No, ce l'ho. Solo uno è uscito. Molto bene. Basta, quanti vuoi farne ancora? Basta, è finito. Sparisci dopo 6 round. Dopo 6 danni alla forza. Tuttavia, mentre... Posso fare una prova di conoscenze per riconoscere queste abilità? Sì. Locali? Locali. 27. Ok. Sai che di recente, prima che giunga il Shaq ordinasse il suo colpo di stato, gli era stata affidata la missione di, diciamo, distruggere un ordine monastico di cantrici che professava il aspetta ho scritto qua tipo la ricerca della canzone, secondo me le cantrici dall'abito bianco, no? Oh. Che grazie. Sono una serie di donne che dedicavano la propria vita allo studio e all'affinamento del canto curatore. Un particolare tipo di canto. Certo. Comunque passavano 15. No, perfetto. Ho capito. Il suo ordine è stato ritenuto sacrilego dall'impero di Smeraldo. Okay. Per il semplice motivo perché, cioè, si temeva che potesse in qualche modo conquistare effetti di potere o di consenso popolare. In qualche modo. Cioè, okay. Cioè la popolazione. Comunque, cioè, con la scusa che era ritenuto sacrilego, in pratica si è ordinato che venissero sterminate. E a guidare le missioni di sterminio era proprio Yunkai Shaq. Diciamo. Ho capito. Tuttavia lui era un mero esecutore, non era certo, un fanatico. Desiderava la... Ovvio. Riesco a capire che è una cantrice, quindi. Certo. Interessante, guardo Yun Kaishek. Come, cioè, mentre lei canta, lui estrae la katana e gliela punta contro. Io lo vedo. Io mi sono ripreso. E allora io vado da Yun Kaishek. Io mi sono ripreso. Cioè, è già passato sì, questo. Sì, sì, certo. Tu sei sempre rigido, tra l'altro. Questo è interessante, insomma. Non ho conoscenze locali, purtroppo non so la storia. Probabilmente sì, lui non parla, le punta solo la katana, cioè praticamente alla gola. E io vado. Io sono comunque ancora in ira, col falchion in mano. Ma te è una prova di sense motive. Per sé, avevo tipo 19. Cos'è? Chi ce l'ha? Cos'è? Io comunque mi avvicino a. Ce l'ho, però non so quanto. Vabbè, almeno. Ditemi quanto. Io glielo dato 30. Gradi. Ho fatto 30. Sì, io mi avvicino comunque 10. E mi metto tra Yun Kaishek, cioè, nonostante e lei. Lo sguardo di Yun Kaishek sia come al solito impassibile e non lasci trasparire nulla. Noti un leggero tremito nella sua mano, come se fosse indeciso, preoccupato. Turbato su più che altro. Allora io vado davanti a Corinne e la proteggo dalla con 20 lo capisco, sono comunque appena impercettibile. No, con 20 okay. È sufficiente. Perfetto. Beh, io vado davanti a Corinne, vado lì fino in volo, insomma, sto volando, vabbè, e mi metto tra Corinne. Vabbè, lui già capita che mi metto vicino a Corinne. I punti a pistola, insomma. No, perché... no, mettiamo queste cose. Scusa, Io sposto Io sposto Corinne e la metto lì. No, io mi metto tra Corinne. Io ti disapprovo. Yun Kaishek. Non è giusto, sei un monello. Posso provare? Mi metto tra Corinne e dico, non lo fare. Non voglio iniziare un combattimento adesso. Cioè, proprio anche perché ci sono 2500 non inizia il combattimento. No, questo muore istantaneamente. Nessuno di loro due dice una parola, ma a un certo punto Kaishek rinfodera la katana con un gesto abile, tipo faccio male così. Così. E si volta e se ne va senza dire niente. Quante parole. Questa è bella. Mi giro verso Corinne e la ringrazio. Dico grazie, anche se. Hai tempo anche tu, fede al fatto. Grazie. Ora non c'è più bisogno di tenere queste capacità segrete. Davvero interessante. Comunque le dico che d'ora in poi. Saranno molto utili in battermi ancora. Dico che d'ora in poi lei sarà sotto la mia protezione. Sicuramente. E se ha bisogno può anche venire a dormire. Non è un grazie, grazie a me. È caso. Io volavo, loro no. Tuttavia, oltre a. No, aspetta, in effetti Yun Kaishek non se va. In mentira non succede una cosa. No. Però questo evento qua è estemporaneo, me l'ha fatto dimenticare. Okay, ok. Vabbè, intanto io lo dico a Corinne. Rinfodera la spada. E dice: abbiamo cose più importanti a cui pensare. Tipo che li guarda, cioè loro non erano proprio sulla nave, cioè loro erano sulla nave, no, metti loro erano sulla nave. Il nano, uno dei Folgebrand, dice: ci credo bene che abbiamo altre cose a cui pensare a quella cantrice. La Sratite è scomparsa. Come? Cosa? La Sratite che era sulla nave. Sì, ma sì. Mi lasciamo un secondo. Non posso abbandonare un altro mio posto e subito ci sono dei ladri. Dannazione! L'altro nano dice: non sappiamo come sia successo. Dice reggendosi la pancia, no? Così. Era il bello che eravamo tutti qui sulla nave e nessuno ha visto niente. Mi sa che tra di noi c'è un Jung. Esatto, Jung dice sì, esattamente questa cosa. Tra di noi potrebbe esserci un traditore. Gli unici che sicuramente sono fuori da ogni dubbio siete voi che eravate a combattere. Non potevo essere. Io non mi fido dello spasimante. Lo scorpione. Che ce l'ha un po' con me, lo ammetto, però. Perché mai dovrei rubare la Sratite e morire nel deserto morto di fame con gente che veramente non ha voglia neanche di divertirsi un po'. Frecciatine. Chi è che era? Proposito, bel muscoloso. Dai! La sei vista brutta in battaglia oggi, ma visto che eri molto forte. Sento il culo! Cosa che hai detto? Sento il culo! Non ti conviene farmi dell'avanzo in questo momento, sono tanti. Comunque, a parte le ciance, chi è che era? Però mi piace. Faccio una prova di intimidire. Ti piace violento. Faccio una prova di intimidire. Mi piace se lo intimidisci. Mi piace se lo intimidisci. Ma niente, l'ho fatta lo stesso. No. Io mi avvicino verso di lei, grazie di avermi avvisato l'altra volta. Comunque, io prendo... Com'è che si chiama sto tipo? Istral, prendi Istral sulla faccia, lo sposto e dico: a parte le stronzate, intanto c'è la cantrice, parte le stronzate, ma chi è che era chi è che era guardia della Sratite mentre noi eravamo lì? Nessuno, nessuno guarda. Jung Kaishek lascia la Sratite così a cazzo, lascia a cazzo, non è che ci deve essere qualcuno che fa guardia a ogni singolo componente della nave. Mentre la Sratite è la cosa più importante del mondo per noi. Non sospettava un traditore, non sospettava che ci fosse un traditore. Chi è che si può spostare? A quanto pare sono destinato a essere tradito dai miei sottoposti. Eh sì. Chi è che si può spostare tra i mondi qua? Carnivora. È vero? No, nel caso posso soltanto andare fino al mio piano dove tengo le mie scorte di cibo. Posso dirlo io? Che l'ho capito l'altra volta. Posso anticiparla a dirlo io, visto che l'ho capito. Sì, sì, va bene. Lei può spostarsi solo tra il semipiano che ha creato e questo luogo, non può andare via. Come ha detto l'amico un po' lugubre, perché del corvo, dico. È un complimento. Sei già fago, sostanzialmente. Detto da te è un complimento. Ma se questo piano non può contenere la Sratite? Sì, potrebbe contenere. Ah, sì, certo, potrebbe contenerla se ce l'avessi messa prima. Ma scusate se non pensavo di trovarmi chiusa in un deserto con un branco di idioti che No, lei dice potresti trasportarla lì. Ora dalla nave potresti trasportarla sul tuo piano dove vai a fare colazione con Tiffany. Che senso? Ah, perché stai insinuando che l'ho rubata io. Questo potrebbe essere. Potrebbe. Oh sì, in effetti potrebbe. Ma non ci sono, cioè, mi sembra abbastanza telecamere di sicurezza? Mi sembra abbastanza equivalente il fatto che lei riporti sul suo piano, altri la buttino per terra. No. Forse no, perché non ci stiamo muovendo. No, infatti eravate fermi. Allora per forza. Perché? No, dico qualcun per forza altro deve essere stato un teletrasporto o qualcosa di simile. Oppure nascosta da qualche parte nella nave. Cerchiamola. Cercate sulla nave? Per forza. Io mi posso far curare dalla tipa ancora? Capitano, le consiglio di far cercare noi i danni alla... Avere i danni? No, le cariche bacchetta sono preziose. Io glielo chiedo. Queste cariche potrebbero servirci, dovrei pagarle in ogni caso. Le prime, anzi, è meglio se paghi anche quelle che abbiamo usato fino adesso. Giusto. Posso provare a usare per sexo? Non so da quanti soldi ho, non mi cerco. Bro, bello pezzi dell'equipe. Ehi, aspetta! Posso usare io? E se Vigi? No, vabbè, avete anche ucciso il fantasma e tolto un po' di roba. Fermi tutti, io i guanti! Che guanti? Quelli per vedere attraverso le cose. Vabbè, cosa siamo? Per vedere attraverso le... Sono fighissimi, però. Per vedere attraverso le stanze. Ok, ma cioè, puoi entrare nella porta. Ah, posso entrare da qualsiasi parte? Una cosa volevo dire. Anche nelle stanze del capitano? Capitano, lei resti qui a fare la guardia a coloro che sono sospettati. Saremo solo noi a frugare la nave. Aspetta, innanzitutto, sembra una buona idea. C'è qualcun altro che ipoteticamente potrebbe spostarsi da questo mondo a un altro mondo? Sì, da questo pianeta, da questo piano a un altro piano? Sì. Potenzialmente ne ho le capacità, ma non ne sono in grado, ma dovrei chiedermi sulla parola. Comunque sia, non sono sospettato. Posso provare a usare non sono così potente da poterlo fare. A parte la... Ho altri poteri molto potenti, non questo. Okay. A parte la carnivora. No, non c'è nessuno che abbia questa, cioè, che sappia che abbia questa vita. Io posso lanciare le cose lontanissime. Perception per vederci qualcosa di strano. Lo voglio usare Perception su tutta la per vedere Perception. Sì, ci pensa. No, niente. Allora vado nella stiva. Ho detto io posso lanciare le cose lontanissime. Io. Ma tu eri via tanto. Vado nella stiva a vedere. Quanto abbiamo deciso? Ok, l'ho sospettato. Vabbè, facciamo che tutti perussate la nave da cima a fondo. Ma non trovate la vera. Compreso Sodoma. Non troviamo la Sratite. Anche Squirrel. Da tutte le parti, tutte tutterrime. Prendete 20, ci mettete una giornata se volete, ma. È stata fatta sparire magicamente allora. Chi è che sa usare la Comunque, magia qua? Il motore, controllo il motore per capire quanto c'è di autonomia. Non può ripartire. No, il fatto è che senza Sratite non funziona lo scudo che vi protegge la possibilità e la nave potrebbe andare a puttane. Ok. Mi siete fermi qua. Siamo bloccati. E non c'è un modo in per questo tempo controlliamo ovviamente anche intorno alla nave se è stata buttata fuori. Non fate so. Una prova di Perception intorno alla nave. Allora, 20-28. 19 naturale più altri 19. Quanto fa 19 più 19? Tanto. E qua è 38. 38. No, non so se ti ha detto perché c'è serve il suo scudo. Ti ha detto cosa c'è in questo zona del deserto? No. No, non c'era lui. No, magari l'ha detto lei. No. Sì, te l'avevo detto. Vabbè, in pratica ci sono gigantesche lame che fuoriescono dalla sabbia. Ah, no, ma io. Certo. Ah, e siccome magari ce ne sono alcune anche filo sabbia, contro la nave si spacca tutta, capito? L'aveva detto nella prima sessione. No, no, l'ho detto quando non c'era. Ah, sì, pensavo nella sì, prima. No, no, no, no, no, cioè, sapevo che sia uno scudo, ma non sapevo qualcosa. Cioè, pensavo fosse per galleggiare quasi, capito? La scorsa sessione, certo. No, comunque è per questo, cioè. Questo è importante perché quanti li avete fatti per certo? Per sé? Lei tipo 38. Ok, allora, nel riflesso di una di queste lame, no? Così, no? Ah. Vedi in lontano, cioè vedi che riflette da molto lontano, evidentemente, un punto luminoso, diverso, come se ci fosse qualcosa che riflette ancora più lontano. Una lama di quelle che sono spuntate? No, una delle lame che escono dal deserto, non è che spuntano, sono lì. Sono dal deserto, ok. No, vado io. Una volta Giorgio ha capito che facciamo così. È tutto, ma bellissimo. Così mortale. E io faccio così, siccome ho Overland Flight, no? E io indico luce a babordo. No, vabbè, mi sto prendendo troppo la mano. Alla tribogo. Molto lontano, ci metteresti prossimamente una giornata comunque da arrivare, eh? 64 miglia proprio in 8 ore. E comunque 8 ore fai. Cioè, proprio tanto. Puoi tipo quasi 100 km, cioè 80 km. Cioè, perché lei per vederlo così tanto. Ti dico, io guardo. Allora, io sono all'avvistamento. For long distance. Sì, non ha molto senso che io abbia sto spell. Facciamo che non si può usare per volare così tanto. Cioè, senso ha. Lasciamo stare. Cos'è che fai? Tipo, perché qui dice che. Vedi, long distance move you can hustle without taking non lethal damage. Questo vuol dire che puoi coprire 64 miglia in 8 ore. O 48 miglia. Sì. 64 miglia in 8 ore. Sì, ma non voglio, scusa, tutto il mio background si basa sul fatto che vado lento. Dai. Vabbè, allora non prenderlo per background. Ah. Puoi fare che c'è un incantesimo equivalente che ti fa volare tutto il giorno, ma non così veloce. Sì, dai. Cioè, fare che non si può, che ti stanchi subito, che cazzo ne so. Sì, sì, va bene. E allora le indico, le dico... Quanto sarebbe 80 miglia, 80 chilometri, cioè 64 miglia sono circa 80 chilometri. Non lo so, ho sparato. Sì, circa. Calcoliamo, sono 90 chilometri circa, penso. Come cavolo fai a calcolare la distanza? Fate una prova di... intelligenza, knowledge engineering, non lo so. La sopravvivenza anche può andare bene, dai, capisci 25 tu, facendo dei calcoli molto, con un bastoncino sulla sabbia, no? Capisci. Sfutti che disterà due giorni di cammino. Ok, due giorni di cammino stimo così, ma hai appena fatto un sacco di calcoli. È così. E quindi avanti, ciurma, andiamo? Beh, magari avvisate che partite per un viaggio di due giorni. Così, vabbè, certo, sì, certo. Oh, quello è ovvio, però nel senso... Jung. Capitano. Questi sono i fatti. C'è, sembra esserci una luminescenza particolare, non so, potrebbe essere la Sdratite, non ho capito questa luminescenza. Cioè, no, tira solo così. Non lo sappiamo. È molto strana. Sì, cioè, potrebbe essere tipo... un edificio riflettente, oppure appunto la Sdratite che è stata messa di lontano. Cioè, sostanzialmente non è una lama. Cioè, sembra una lama, non è una lama. No, allora, cioè, nella lama c'è, si vede il riflesso di qualcosa ancora più in lontananza. Cioè, c'è questa lama lontano, no? A due giorni. Sulla cui superficie si vede riflessa un... No, la lama non è a due giorni, è appunto. È bella veloce. Si vede un'irregolarità che è fissa comunque, cioè non è come una roba che viaggia, va in giro, cioè... Si vede che c'è qualcosa in lontananza, cioè non è un difetto della lama, roba del genere. Però questa cosa noi non la vediamo, guardando dove... No, dove... perché è proprio indistinta, cioè nel senso... Vedi un puntino nero. No, dico, cioè quanto ho capito non è una roba di questo tipo, no? Cioè noi siamo qua, qui c'è una lama così, e c'è... E noi vediamo un riflesso di una cosa che sta tipo qui. Più o meno, esatto. Se io guardo qui, capisco un po' l'angolo... Non... Ti guardi là, no, è troppo lontano. Ok. Potrebbe tipo essere la mano, essere leggermente curva e fare un po' da ingrandire, robe del genere. Giusto. Magari il calore del deserto distorce un po' la roba. Quindi direzione abbiamo capito comunque sì, che è in quella sì, direzione. Sì, sì, sì. Direzione paradiso. Direzione paradiso. Capitano, che cosa facciamo? Andiamo noi non sospettati oppure... Sì. Oppure si muove tutta sospetti. La turma? Il monaco. Il monaco è sospetto. Infatti, voi non sospettate, virgola, il monaco. Chi è il monaco? E per un viaggio di due giorni sarà meglio mandare con voi anche Istral, anche se non so bene. No. Rispetto del deserto. Posso no. chiedere Corinne? Sì. Possiamo chiedere Corinne? È sospetta. Anche Istral. Garantisco io per esatto. lei, Corinne, non mi farlo. Garantisci tu che cosa? Capitano, io ho bisogno di Kugen. Beh, ma lei è una cantrice, non è una... Vabbè, però... In effetti, però, no. Senza le cure adeguate, probabilmente potrei anche non essere utile in questo allora momento. Fatti curare dalla cantrice. Questo è un ordine. Cantrice. Hai sentito il nostro capitano? Curalo. Ti ha fullato comunque, già prima. No, le statistiche. No, la respiration. Servono i soldi per quello comunque. Ma anche il capitano ha dato un ordine diretto. Ah, tu dici che il capitano direbbe... vediamo, il capitano potrebbe dire comunque che dovresti pagarle quelle cariche. Vabbè, ma un debito. Questa bacchetta è requisita dall'equipaggio, è troppo utile perché si ha a disposizione di una persona singola. Tuttavia, hai un debito verso questo equipaggio. Ce l'ho avuto al momento in cui avete salvato la vita. Ma proprio, cioè lui l'ha requisito. Debito monetario. Intendo. Sì. Ma ascolta, quindi lui la requisisce e si cucca pure il credito, i soldi. No, vabbè, cioè, fuori da lei. È comune, cioè, nel senso. Ah. No. Adesso dell'equipaggio. Okay. Lei ha un credito, diciamo, verso okay. perché ha donato questa bacchetta. Un just compensation. Un giusto indennizzo. Dice la CEDU. Lei ha un credito, ma non è autorizzata. Cioè, può usare le cariche soltanto pagando. Cioè, dal suo credito se vuole. Visto che, cioè, lei può disporne come gli altri. Quanto però lo pagare, non decide lei se usarla, diciamo. Quanto lo pagare per le cariche? Sì, ho capito. E una di livello 2, no? La bacchetta di livello 2 o c'è 2000... anche la componente però mi pare che questo deve essere una di livello 1 no ho sicuramente 2000 monete d'oro io sulla scheda sì di livello 1 di Paladin ah livello 1 di Paladin. Paladin quanto costa nuova? Costerà come livello 2 infatti però gli altri di livello 2 infatti però quanto costa la bacchetta di livello 2 no. ma sarà costerà di doppio no un po' di più in effetti del doppio però. Vedo Craft Wand. Mm-hmm. Comunque secondo me costa 2x3 per 750. Qui dice che praticamente costa... Avete osservato giusto? No, non c'è scritto. Dice nel talento non c'è scritto. Wand. Costerà 4500 comunque, secondo me. Sì, come una di secondo. Quella di secondo costa 4500, ah, senza riguardo. Ah, scusa. Ma c'è una componente che costa? Materiale? No, ce l'ho qua. Restoration Lesser, non mi pare, no. No, bene, allora costa 4500. No, con 5. Verbale somatico. Ci sono 50-90 monete d'oro costa. Ma lo sapevi che castigo? È una carica? Sì. Quanto? Una carica a 90 monete d'oro. Oh, ma lo sapevi okay. che casting, town, casting time 3 round? Ah, minchia. Beh, inizio con a fartelo. Non poteva. Vabbè, ormai è andato. È andato, dai. Non stiamo lì a rifare tutto. Il mago è magicamente ancora. Quindi no, non trovo niente, la sala ti dà. No, no, no. Boh. Compro le cariche finché non mi... Salvati dal... Lo faccio. Dall'ignoranza. L'ignoranza paga, sì. Paga, sì. Quante cariche usi? E vediamo. Ti fulli, dici? Sì. Allora tira i dadi, vediamo quando si fulli. Allora. Ma ti danni hai ancora? Ho sei alla forza, una costituzione. Intanto vado un attimo in bagno. E sei alla destrezza. Cazzo. Veste per la forza. Due. O due. Quindi 90. Ne ho 4. Questo è sempre la forza. Curo 3 e quindi ho 1. Vai. Quindi 180. Sempre 180. Almeno non forza. Hai sprecato il dado. Esatto. È proprio preciso, 180. Segni uno 0, così vedi, così segniamo, vediamo quante cariche hai usato, no? Guardando okay. i numeri che hai messo. Destrezza, ne uso due subito. 4, quindi ce ne ho. No, devi segnare 1 e 3, sì, sennò 3. Poi sbagliamo. Aspetta. Quindi ho 3 meno 1 2, devi segnare adesso. Ok? Bene. Quindi 0. E fine questa sezione. Poi potevi anche non tirarlo. Vabbè. 0. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 90. 9 per 7. 7 per 9. 630. 630 ma soldi ti costa questo servizio. Ok. Va bene, tiro via dalla scheda. Oltre alla mia gratitudine. Segnateli qua. No, infatti segno qua. Ah, giusto. Oltre alla mia gratitudine verso Corinne. Chi? Jung? Ma perché? Brutto. Alla fine non ha fatto niente di male, tra l'altro. Brutto. È stato ragionevole. Brutto. Ho deciso che sarò sempre sempre grata a Corinne. Ma direi. Vabbè. Ti ha salvato la vita. Sì, e a me no, che ho usato un incantesimo per portarti. La prossima volta facciamo così, andate voi avanti, io sto qui dietro a grattarmelo. Fai quel che vuoi, non è molto di più. Adesso che siano doppi ETF bisogna stare un po' più attenti comunque. Ma sai, non ero abituato. Ci avevo detto, ma sì, con 300 PF che me frega. Secondo me non possiamo avere i doppi PF, ma gli avversari no. No. Potrebbe essere una buona idea, secondo me. Okay. Il presente che è un incontro parecchio difficile comunque, perché... Cioè, è un CR15, voi siete al 12, quindi è tra il più alto, ma voi avete l'equipe da MPC. Quindi in realtà come se fosse al 10 praticamente. No, ma sai cos'è? Quindi era tipo più 5 rispetto a è voi. Stato il se non è fosse per il veleno, cioè andare tranquillo. Cioè. Vabbè, incamminate? Io sì, bello full vado. Ma... Però aspetta, no, riposiamo e partiamo la mattina dopo. Perché io ho usato tutti i round diga. Mm-hmm. Vabbè, se no possiamo. Partiamo la mattina dopo. Va bene, dai. Perché io ho usato tutti i round diga. Semplicemente. Ah, no, però lui mi dice non metteteci più di. Ah, in realtà scusate, ci sta un giorno in effetti, ho sbagliato. Ok. Ma quindi io ci vediamo dietro il gay e Corinne? No, solo il gay. E Corinne no? Il gay è il monaco, Giorgio. No, Corinne no. Per favore. No. No, ma già curato, basta. Non vi do un NPC che vi cura 55 no, PF round tutto il gruppo, ma mi pare. Non ce lo può dare, no, è sospetta. Ha ragione. È sospetto, dai, c'è proprio. No, ma è anche sospetta, scusa. Vabbè, perché fa invece... parte di una razza che ha motivo di vendicarsi. No. Ma lasciarla lì significherebbe lasciarla in pericolo, per quello che lo stavo dicendo. Non in pericolo, se non l'ha uccisa prima, non è che siccome c'eravate voi ha detto no, non faccio un massacro. No, infatti. Non è per quello. Non si fa scrupoli. Chi ripartire il giorno dopo? Cos'è sta roba che fai col tap in qualche modo? No, sì, sto guardando che strana reazione che ha con la plastica. Boh, adesso non lo fa più. Vabbè. Chi ripartire il giorno dopo? Perché così almeno è round diga. E poi riposiamo. Guarda, cioè, siccome è un po' magnetico, lui crede che si sia chiuso la smart cover. Sì, infatti, che roba. Magnetizzato tutto. Okay. Volete partire Jungle Chef? Comunque vi dice: non metteteci più di 3 giorni. Se no ci molla qua. Ovviamente no, visto che siamo fermi qua, ma allora. È meglio spicciarsi prima che tornino altre cose più cattive di quel... Va bene. Di quel... Non più di 3 giorni. Scorpione. Scorpione, grazie. Quindi dormiamo. Dormiamo e il giorno dopo andiamo. Okay. Sì. Ok. Mettete in cammino e incontrate creature particolarmente pericolose. Perfetto. Il viaggio procede abbastanza tranquillo nonostante le avance di Istra al barbaro. Al prossimo ti dico un pugno. Oh, mi è caduta questa freccia. Da. Io la raccoglio da terra. Con ostentata lentezza. Esatto. Vediamo un perizoma? Certo. No. Scocchio le dita. Bravissimo. Come ti dico, quando mi sveglio mi casso comunque quello per volare. Va bene. Mm-hmm. E dopo quasi una giornata di cammino, appunto, arriviamo al iniziate a intravedere quello che faceva il riflesso. All'inizio non vi è chiarissimo cosa sia, ma man mano che vi avvicinate capite che è una piramide di vetro opaco. Vetro opaco. Non è molto grande. Sarà alta non più di una decina di metri. Di vetro? Sì. Posso fare perception per sapere se c'è qualcosa? No, beh, continuiamo. Era difficilmente visibile comunque. Continuiamo il cammino. Che cos'è? Una piramide di vetro. Posso fare una prova? Locali? Esatto, conoscenze locali. Se vuoi, ma non troverai niente. Ok, niente. Possiamo romperla. Non lo so che cos'è. Si può rompere. Non lo so. È la nascita di una vera amicizia. Ok, continuiamo. Yeah, continuiamo. Quando siete sì, parlo col cov, ovviamente, abbastanza vicino da poterla vedere in tutta, cioè poterla vedere bene, notate che ha un singolo ingresso su una delle facce, no, quella da cui state arrivando. E dinanzi adesso vi sono due golem di metallo, no, che brandiscono una spada e stanno fermi così davanti come se facessero la guardia all'ingresso. Ok. No. Se volete ci fermiamo qua. No. O volete andare avanti? È mezzanotte e 20. Per me possiamo andare avanti a tutti. Ancora un pezzettino. Dai, si può andare avanti ancora. Va bene. Allora, due ore e mezza di combattimento. I golem non sono immuni alle illusioni, vero? Sono immuni alla magia. Che okay, sono immuni alla magia, però. Sono immuni al mind effect. Sono anche immuni qui. Quindi se è un'illusione che ha paesaggio. Appunto, cioè se... non vedono quelli invisibili direttamente, non mi pare. No, posso fare una prova per sapere queste cose? Sì, ma non lo so. Ingegneria 16. Il combattimento, però no, io domani inizio alle 8 e mezza. No, domani devo essere alle 8 e mezza all'universitario. Facciamo solo. Avviciniamoci solo. Solo e poi andiamo. Se è veloce, ok. No, beh, se è veloce, ok. Che poi veloce dipende. Non so, perché volevo lanciarmi un incantesimo che praticamente mi rendeva invisibile, creava un doppio di me. Che andava a parlare con loro e vedere cosa si diceva qualcosa. Sì, però è di sesto, però è figo. Cioè, non è molto forte, ma è figo. Cioè, sono quelli che Simone ci ha fatto affrontare, no? Che però poi tutto nel fare, però io non mi ah, conosco va. Molto bene. Ok, quindi lui è proprio dicendo che conosco molto bene. Stai già dicendo che parlamentare non serve a niente, dai, allora chiudiamo. No, sto facendo vedere la figura. No, quello sì, però. Ah, però vi ho detto che non nerferò né niente. Cioè, beh, dovevo provare per la metà, magari con qualcosa. Ma no, dai, andiamo a casa. Vabbè, prova, magari dico inizia lo sconto, possiamo iniziamo con lo sconto. Ok. Allora me lo faccio, Mislead. Così. Noi stiamo un po' più indietro. Praticamente, voi non vedete niente. Non sì, ma noi siamo più indietro rispetto a te. Cioè, ma però la siete con me. Noi siamo lontani dai guardi. Mi lancio Mislead, che praticamente cosa succede? Che io divento invisibile e si crea un doppio di me, ok? Come fa il sostituto di Naruto quando lo colpisce. Esatto, che voi però non mi sembra niente. Vedete semplicemente il gracile Avraham che si avvicina ai golem. Ma quindi lì camminiamo insieme a Avraham. State indietro. Cioè sono imponenti rispetto a lui, lo sovrastano completamente. State indietro. Guarda, sono grossi quelli di quante piccoletto. E lui e si avvicina il doppio, io sto comunque bello distante. Però posso sentire dai suoi occhi e dalle sue orecchie. E mi avvicino e dico, salve guardiani. Non rispondono, stanno immobili. Prova a fare io. A che cosa fate la guardia? Posso fare una prova di diplomacy dentro dei golem. Aspetta, posso farlo entrare? Puoi provare. Cosa succede secondo te? Quanto dipende dalla portata. Vuoi provare a farla entrare dici dalla porta? Sì. Ma scusi, ma il riflesso faceva della. Diciamo degli oggetti che cerchiamo, della sgratite, dov'è? Cioè. Questa era quello che faceva il riflesso. Rifletterà qualcosa, no? No, so che era riflesso dalla punta, era quella piramide lì di capito? Vetro. Ah, io ho capito che la piramide di vetro faceva il riflesso a qualcosa. No, la punta faceva. La lama faceva il riflesso a questo. Cioè, a vedere questo, in realtà. Ah, ok, ho capito. Cioè ho capito, dicevo, ma che ci frega noi che c'è la piramide di vetro se possiamo andare direttamente a prendere il tesoro? Aspettate, voglio solo vedere quanto puoi andare distante. Within range. Ah, ecco. Ah, ecco. Sarà un non lo dice. Vabbè. Mi sa che si muove della mia velocità e basta. Pronto. Dovrà avere un range. Ma sì, dai, va bene. Puoi entrare comunque. Forse è il range di ingresso. Vabbè, provo a varcare la soglia. Come avanza verso la soglia? Sparisce. No. I golem lo attaccano. Ok. Entrambi. Penso che lui sparisca, cioè, nel senso. Non lo so. sparisce. Come se l'immagini non credo tagliato. Loro disbelivano, credo. Boh, non c'è scritto che lui sparisce. Cosa succede se viene attaccato? Niente, passa attraverso e basta. Tutti sanno che è un'illusione. Così, allora, sì. E passa attraverso. In teoria se ti resta l'iniziativa. Ah, sì. Però no, scappiamo. Ma mi chiedo, non può passare e vedere cosa c'è dentro, secondo te? Ah, secondo me lui può passare. Se non lo colpisce niente, lui può passare. Devo vedere che cosa. Devo capire bene il range dello spell. Adesso lo vedo in macchina.